assetto più tradizionale del nostro programma. La prima fascia dunque si estenderà fino alle 17:30 o poco oltre, ospitando il terzo dei quattro incontri che abbiamo previsto con l'etnomusicologia di Diego Carpitella. Come saprete, infatti, Antologia dedica ogni mese della sua programmazione ai più importanti interpreti della cultura italiana contemporanea, ricostruendone, con il supporto della loro presenza, di altri ospiti, di letture, brani musicali e frammenti di trasmissioni d'archivio, il loro intero profilo biografico. Successivamente al terzo incontro con Diego Carpitella, Antologia proporrà per la serie dei ricordi dei grandi interpreti del teatro italiano del Novecento un ascolto riferito alla recitazione di Sara Ferrati, impegnata in due brevi trasposizioni radiofoniche da Spettri di Ibsen e Gallina Vecchia di Augusto Novelli. Dopo la pausa del giornale Radio 3 prevista dalle 18:45 alle 19, Antologia riprenderà la linea per proporvi le consuete iniziative della seconda parte. Potremo infatti ascoltare un nuovo frammento della rubrica riservata alla presentazione degli esordienti nella narrativa italiana contemporanea. Oggi Carlo D'Amici si incontra Carlo Panella, autore per Sellerio del libro Il Verbale. Un ascolto musicale concluderà il numero di Antologia del 21 gennaio 1990. Un numero curato da Emanuele Pappalardo, principale interlocutore di Diego Carpitella nella prima parte del programma, Carlo D'Amicis ora in regia e Mirella Fulvi in questo momento al microfono. Le letture sono affidate a Gianni Bersanetti. Per la parte tecnica, Genesio Di Jacopo. Ricordo anche agli ascoltatori che fossero interessati a farci pervenire le loro opinioni e i loro suggerimenti che il nostro indirizzo è Antologia, Rai Radio 3, seconda struttura, Viale Mazzini 14, 00195, Roma, e buon pomeriggio. Tutto un buon pomeriggio a Diego Carpitella, che si prepara a questa terza fatica, lunga fatica, professore. Continueremo in questa terza delle quattro trasmissioni che Antologia dedica a Diego Carpitella a ripercorrere le tappe fondamentali degli studi e delle indagini sul campo della etnomusicologia italiana. Studi e indagini di cui Carpitella è stato senz'altro un pioniere, insieme a pochi altri che abbiamo già ricordato le scorse trasmissioni e che ricorderemo oggi o saranno presenti qui in studio tra non molto. Quest'oggi vorremmo iniziare da una valutazione sulla documentazione etnomusicologica fuori dall'Italia, o si potrebbe dire, tra virgolette, fuori casa, citando il titolo dato a un numero della rivista Culture Musicali, di cui Diego Carpitella è presidente, un numero dell'88. Ecco, Carpitella scriveva nella prefazione a questo numero che negli studi etnomusicologici ed etnologici in Italia vi è stato sempre uno spazio piuttosto angusto per le indagini e le documentazioni musicali e fuori Italia. Ecco, lei ha ricordato questo numero unico di culture musicali che la rivista della Società Italiana di Etnomusicologia, e nel ricordare i materiali raccolti da etnologi e da etnomusicologi fuori d'Italia, fuori di casa, era detto chiaramente, viene subito alla mente l'appendice musicale alla ricerca tra Yanoama di Bioka, Viaggio tra gli Indi, 1965-66, la pubblicazione con ben 15 dischi allegati. E infatti credo che chi si occupa dei rapporti, come abbiamo avuto occasione di dire, tra antropologi, etnologi e musica in Italia, direi che il caso del professor Ettore Biocca, che è qui con noi e che io ho espresso il desiderio che fosse qui, è un caso piuttosto unico e particolare. Infatti io ringrazio intanto il professor Biocca per essere qui. Ricordo agli ascoltatori, il professor Biocca attualmente professore emerito dell'Università La Sapienza di Roma, è stato direttore dell'Istituto di Parassitologia all'Università La Sapienza, sempre di Roma, e presidente dell'Istituto Italiano di Antropologia. Alla ricerca sugli Yanoama arriveremo tra pochissimo. Ricerca sugli Yanoama che interessa direttamente sia il professor Biocca che il professor Carpitella. Io vorrei chiedere al professor Carpitella di tracciarci un quadro, una valutazione delle ricerche etnomusicologiche italiane fuori casa. Ecco, dicevo prima che bisogna distinguere quelle che sono partite in queste ricerche etnomusicologiche fatte fuori di casa, e non sono mai state puramente etnomusicologiche, ma sono state sempre con etnologi. Soltanto in qualche caso c'è stata una ricerca puramente etnomusicologica, perché una grande tradizione fuori di casa dell'etnomusicologia in Italia è estremamente limitata, e questo numero appunto 10-11 di cultura musicale ne dà un panorama. Poi bisogna distinguere anche in questi studi di fuori di casa quelli che sono stati i materiali portati da etnologi. Il caso del grandissimo lavoro di Ettore Biocca è quello di aver registrato del materiale assolutamente eccezionale e di aver portato questa grande quantità di materiale che poi così mi ha chiesto di vedere e di esaminare con lui, e quindi è stato poi un'analisi fatta, diciamo così, al tavolino per me, no, per Biocca un'analisi sul campo, però è interessante vedere come è chiaro che anche al tavolino, venendo da certe esperienze, è possibile trarre delle considerazioni e delle riflessioni. Sinceramente, se non avessi avuto l'esperienza che avevo avuto qui anche in Italia sulla lamentazione funebre e poi sui casi di possessione come il tarantismo soprattutto, credo che non mi sarei potuto avvicinare tranquillamente a questo materiale, di cui era insomma abbastanza, poi oltre che era inedito, registrazioni non ce n'erano state in questi porti. Per quanto riguarda poi in generale l'etnomusicologia fuori d'Italia, questo numero di culture musicali, ecco, si occupa di musica cambogiana, di cui si è occupato Giovanni Giuriati, occupa della balia del Madagascar, poi dello sciamanismo nepalese fatto da Mastro Mattei. Avremo modo di affrontarlo anche oggi. E per un censimento esaustivo forse di queste ricerche, dell'inizio di queste ricerche fuori Italia, forse bisognerebbe citare gli studi sull'Africa italiana, soprattutto di missionari, di padre Giorgetti, o il libro di Barblan sull'Africa orientale, che mi sembra risalga intorno agli anni 40. Seconda metà degli anni 30, anni 40, ho raccontato quell'episodio singolare che successe in questa esperienza di registrazione di musica in Somalia, dove furono per la prima volta nel quadro italiano venivano presi dei rulli di cera del fonografo Edison, e quando arrivarono in Somalia si sciolsero perché era troppo caldo. È un inizio molto particolare. Poi c'è molte trascrizioni manuali, naturalmente attendibilissime, però è stata un po' trambustata. Però lei ha giusto, Barblan soprattutto, e i missionari perché occupano questa cosa? Perché sono gli unici un po' alfabetizzati alla musica. Sono gli unici, e quindi per esempio molti numeri della famosa rivista Nigrizia portano queste trascrizioni, certo dal punto di vista nostro sono molto discutibili, però c'è questo leggero sentiero di tradizione. Ma ecco perché la singolarità del materiale di Ettore Biocca. Adesso arriviamo immediatamente al materiale di Biocca. Ecco, volevo chiederle un'ultima cosa: quanto è stato importante la tradizione demomusicologica italiana per una forse scarsa valutazione dell'etnomusicologia all'estero? Ma il punto è che, anche se alcuni sostengono di no, però non c'è dubbio che le ricerche, e forse il caso Biocca dimostrerebbe di no, perché non è che abbia avuto una tradizione colonialista in Amazzonia, in Italia, forse questo dimostra così la tradizione esplorativa, però come si intende tradizionalmente, le situazioni coloniali hanno favorito determinate ricerche etnologiche, secondo alcuni. Cioè la tradizione francese e inglese, per esempio, e ha dato luogo a uno sviluppo anche negli anni del Novecento a ricerche di carattere anche etnomusicologico più frequenti. Era una situazione di territorio e interscambio, però non è una norma assoluta. Anche senza esserci nessun cordone colonialista, poi c'è un senso dell'esplorazione, della curiosità scientifica che fa andare di no. Ma in Italia, da questo punto di vista, non si può parlare di una tradizione etnomusicologica fuori di casa, al di fuori di impiegati, funzionari, militari che hanno raccolto strumenti musicali, come io ricordavo, al Pegorini, raccolti più che da etnologi, da mercanti, ma dove lo strumento musicale era considerato un oggetto, quindi nell'ambito della cultura materiale, e al di fuori di qualche testimonianza dei missionari che erano un po' più accostumati alla musica. Ecco, la ricerca quindi tra gli Yanoama dell'Alta Amazzonia di Bioc è un punto fermo di queste indagini fuori casa. La ricerca data 1965-66 la pubblicazione dei risultati di questa ricerca, e fruttò appunto un'ampia documentazione scritta e sonora, in quanto vi sono 15 dischi che compongono la parte musicale di questa ricerca. Ecco, professor Bioc, vediamo di tracciare i contorni di questa ricerca, come inizia e poi l'interesse che ha avuto questa ricerca da un punto di vista etnologico e antropologico e l'intervento del professor Carpitella. Ma io cercherò di essere breve. Durante il tristissimo periodo della guerra io mi trovavo in America, alla Rockefeller, e preso da un senso di ripulsa, di orrore, di disgusto, di tutto, sono andato nella foresta amazzonica. Ho fatto la prima spedizione nel 1944. In quel periodo una fanciulla della missione fu rapita dagli indiani Yanoama. Io feci la spedizione, mi pare che sia stato il Duca degli Abruzzi che diceva che le migliori spedizioni devono essere fatte in numero dispari, ma tre è troppo. E io ho fatto una spedizione da solo nella foresta amazzonica, appoggiandomi nelle varie missioni. Ho studiato dei gruppi dell'Alto Rio Negro, poi sono ritornato nel nostro ambiente di ricerca biologico-medica e poi sono tornato all'università dalla quale ero partito per andare alla Rockefeller e all'Università di Roma. E dopo 20 anni la fanciulla che era diventata la moglie di un capo che era vissuta per oltre 20 anni con questi indi è ucciso in una lotta, il suo marito al quale era molto legata ritorna nel mondo dei bianchi, ritorna con un corredo di cultura enorme, un padre missionario medico, carissima figura, padre Bigiaretti, mi scrive e si organizza col Consiglio Nazionale delle Ricerche una spedizione formata da colleghi biologi, professor Ponzo, Baschieri, Mangivi, tecnico Bagalino e anche dei colleghi brasiliani. In questa seconda spedizione noi abbiamo studiato quel gruppo indio che nella prima spedizione non era possibile studiare perché era un gruppo completamente fuori dal contatto col bianco. Attraverso l'aiuto di questa donna noi siamo riusciti ad avere le informazioni e poi a riseguire le tappe di un percorso che è stato, ritengo, il primo che sia passato dal bacino amazzonico al bacino orinochese attraverso la foresta. Abbiamo fatto circa 1500 chilometri di canoa nella foresta e abbiamo preso contatto con una quantità di gruppi. Questo è il breve riassunto della storia. Questa storia però è troppo schematica perché ci sono stati tanti ricercatori prima e dopo di noi che hanno lavorato e che io qui in questo momento non ho il tempo di ricordare, e come non posso, viene attribuito a me un complesso di lavoro che appartiene poi a tutti i collaboratori nella musicologia, soprattutto a Carpitella. Io sono stato in fondo il raccoglitore di quello che poi è stato studiato e elaborato insieme con Carpitella. Ecco, allora vediamo. In questo senso no, voglio dire che effettivamente no, queste anche le ricerche, quando assumono un carattere interdisciplinare, hanno sempre un asse su cui si ruota, se no sono una pluridisciplinarità che sembra certe volte persino disordinata, mentre questo asse è ovviamente compiuto dal perno della ricerca di Biocca. E vorrei dire questo senza anticipare l'ascolto di documenti musicali, cioè, vorrei dire che lì è l'esigenza, cioè nel quadro generale i materiali di Biocca che sono di carattere naturalistico, psicologico, linguistico, eccetera, rappresentano un insieme di interdisciplinarità in cui si è stata sentita l'esigenza della parte musicale. Il mio è stato un lavoro al tavolino sulla base di queste registrazioni, che è fatta anche con dei mezzi tecnici non particolarmente sofisticati, però lasciati nei momenti giusti per prendere dei documenti assolutamente irrepetibili. Ecco, allora sì, certo, il lavoro è stato raccolto da molti intorno però a un asse su cui hanno girato. Ecco, come avvenivano queste registrazioni, professor Biocca? Ma le registrazioni, queste che vedremo, che ascolteremo, venivano fatte depositando l'apparecchio, il piccolo apparecchio Philips, che era quello che rispondeva meglio di tutti, e poi allontanandoci. Noi eravamo tollerati perché vivevamo vicino al gruppo e quindi ci conoscevano, davamo regali, e quando c'erano incontri fra gruppi ostili o quando c'era un caso di morte, noi lasciavamo il registratore con la speranza che questo marciasse. In genere spesso ha marciato. È andata bene, in maniera che noi abbiamo potuto raccogliere quasi, no, direi all'insaputa, perché è noto che, per esempio, fotografare direttamente un indio è una delle cose più pericolose che si possano fare in questo ambiente, perché per due ragioni. Prima di tutto perché si vede questo apparecchio fissato verso di lui, noi avevamo tutti i sistemi per fare fotografie indirette, per fare fotografie con apparecchi che non dirigessero, angolari, sì. Ma e questo ci sono stati casi di ricercatori uccisi proprio per questo, dalla ribellione. Secondo, perché mostrare la fotografia a un indio, successo al padre Bigiaretti, come facevo riferimento, che dopo un anno è tornato e ha fatto vedere la fotografia di una persona che lui aveva fotografato. Questa persona era morta, c'è stata una specie di sollevazione, lui è dovuto scappare qua, perché aveva rubato l'anima, certo, attraverso la fotografia. Quindi sono tutte precauzioni che è necessario prendere. In genere lasciavamo l'apparecchio, poi lo ritiravamo quando era finita la bobina oppure quando era finito l'episodio. Qual è stato il raggio di interesse in queste ricerche? Cioè, voglio dire, che cosa si è andato a studiare? Io ritengo, io sono medico naturalmente, però ritengo che quando si studia un ambiente o un fenomeno non possano esistere dei limiti nella raccolta del materiale, che deve essere fatta nella forma più obiettiva ma più completa possibile. Quindi noi raccoglievamo dalle piante che usavano per preparare gli allucinogeni, ai metodi che usavano per la preparazione del curaro, alla lingua, ai gruppi, perché hanno un'importanza enorme anche per capire, per esempio, le malattie ereditarie, tutte le leggi che regolano i matrimoni, sono leggi che regolano, che prevengono la endogamia, che prevengono le unioni fra consanguinei, e quindi queste unioni fra consanguinei hanno poi delle conseguenze mediche e genetiche, e lo studio non può essere separato ad un settore, deve cercare di abbracciare il massimo che è possibile abbracciare. E da un punto di vista etnomusicologico, professore, qual è stato l'interesse di questi studi? Voglio dire, scusate, pensavo che faceva una domanda al professor Biocca. Credo che nel caso poi sempre del professor Biocca sia venuto a lui, sia avanti il problema dei riti orali. Ha trovato dinanzi a sé dei materiali dove le formalizzazioni del suono, che stanno a confine con una suonosfera e la musica, rientrano proprio nei riti orali, e quindi è stato inevitabile usare anche, ci risiamo, al registratore, e ci sono naturalmente certi riti, come sono stati quelli dei sciamanici o altri di iniziazione, dove non si sarebbe capito il senso dell'evento se non c'era una documentazione musicale. Dal punto di vista strettamente etnomusicologico, allora me ne rendevo conto, me ne sono reso sempre più conto, e la documentazione di quella parte dell'Alta Amazzonia era stata estremamente scarsa. Ti ricordi che noi avevamo visto anche una discografia precedente c'era molto poco, era stato raccolto molto molto molto poco, e allora l'importanza sta nella ricchezza della documentazione. Per quello che riguarda, diciamo così, le strutture, si tratta proprio di strutture, virgolette, elementari, che sono indicate, erano già indicate nella letteratura etnomusicologica anche negli anni 20-30 come tra le forme più, virgolette, elementari, e quindi estremamente interessanti dal punto di vista di una possibile storicizzazione del linguaggio musicale. Io volevo aggiungere a quello che ha detto così bene Carpitella le ragioni anche per cui io sono stato portato a raccogliere questi aspetti perché la medicina oggi si avvia ad essere una scienza, ma comincia come un'arte ed è strettamente legata al canto, al ritmo, alla musica. La medicina indigena, lo sciamanismo, sono tutti legati alle manifestazioni del subcosciente, non del raziocinio, e che sono stimolate proprio da quelle sostanze che noi andavamo a cercare, l'azione degli allucinogeni, come agivano gli allucinogeni, qual era l'atmosfera di sogno che questi creavano, quali erano i ritmi e come con questi ritmi loro cercavano di curare. Cioè il legame tra la medicina, la scienza, l'arte sfumano quando l'uomo si trova in condizioni di natura. E questa era una delle ragioni che affascinava in quel momento. Probabilmente questa è la ragione per cui in quella conferenza di presentazione dei tuoi materiali al CNR, e mi ricordo che c'è anche una tradizione medica, probabilmente vicino a quello che dici tu, di introdurre il discorso con dei brani musicali di autori eurocolti, diciamo così. E mi ricordi che scegliemmo un Madrigali di Gesualdo da Venosa, perché dato che questo materiale era tutto vocale ci sembrava più opportuno, e questo si riallaccia proprio a quello che tu dici di questo rapporto tra magia, arte, medicina e arte. Ecco, intanto in sottofondo incominciamo ad avere qualche esempio musicale. Io vorrei che il professor Biocca e il professor Carpitella commentassero. Il professor Biocca, in quanto era sul campo e quindi ha raccolto proprio le registrazioni materialmente. Ecco, il professor Carpitella li ha analizzati, quindi ricordiamo questa sequenza. Potrei fare una descrizione. Due gruppi indie, dei Wawanaweteri e dei Coroscetari. Noi stavamo con i Coroscetari. Vengono i Wawanaweteri con attitudine aggressiva, perché non quella volta ma la volta successiva ci fu una battaglia, una lotta fra di loro, e nella notte cominciano, in una notte di luna, perché era una notte di luna, nella grande piazza centrale circondata dalle singole abitazioni degli indi, questi della Wawanaweteri cominciano a fare questo colloquio solenne, colloquio impressionante, perché la traduzione poi ci dice che loro parlano: queste cascate qui vicine, ascoltino quello che dirò da stanotte, noi siamo i più forti della foresta. E questi altri rispondono: cosa volete voi, le nostre frecce vi aspettano. Era un dialogo quasi omerico fra guerrieri con i loro archi e le loro frecce piazzati in mezzo alla piazza, in questo immenso teatro, circondati dagli indi attoniti, che si scambiano iniziano questo colloquio. Noi non capivamo le parole, poi la Valero ci ha tradotto esattamente tutto. La Valero è la signora, perché abbiamo lungamente collaborato. Non abbiamo ricordato prima il nome. Allora ascoltiamo un po' in primo piano questi dialoghi ritmici. Ecco, dal punto di vista della struttura musicale rientra, appunto, come abbiamo già avuto occasione di dire, nei cosiddetti riti orali, questa formalizzazione dell'incontro e del dialogare, come diceva prima Biocca, quasi in maniera omerica. Vorrei dire che questa forma di dialogo sotto la luna c'è anche nella nostra tradizione demologica italiana. Mi ricordo una festa del Pollino, nel Monte Pollino, dove la sera di notte questi contadini con un bastone non è che parlassero in maniera così formalizzata, però parlavano proprio con un'enfasi, perché la situazione era eccezionale e si ricordavano grandi fatti. Dal punto di vista musicale è interessante che ci sono, questo si chiamerebbe una struttura logogenica, perché è fortemente legata alla parola a picco, vale a dire due delle forme che vengono considerate, discutibilmente naturalmente, come tre forme elementari primarie della formalizzazione musicale. In questo ascolto mi sembra di percepire una certa intervallistica abbastanza ricorrente. Certo, certo, questo è un'intervallistica. Terze, per me. Sì, definibile approssimativamente come terze. Anche questo, la caduta del luogo comune, che le terze non c'è. C'è terza e terza, naturalmente. Infatti poi un approfondimento di questo materiale è stata fatta attraverso l'analisi acustica, e l'analisi acustica riprova proprio questa sensazione che c'è terza e terza, naturalmente. Perché se uno pensa a terza, se lo pensa nel nostro sistema, no? Però è nell'alea della terza. Ecco, ascoltiamo allora ancora in primo piano qualche secondo di questi dialoghi ritmici. Ecco, passiamo adesso a un ascolto successivo che riguarda le danze e i canti degli Yanoama. Sì, ma lo stesso gruppo, la lotta, l'odio, le contese, o si risolvono con la morte o si risolvono con l'allegria, con la danza. Loro hanno le lotte anche rituali. Per togliere l'odio fra di loro si bastonano, presentando la testa e l'altro colpendolo con un bastone nella testa. Dopodiché passa così, noi ci siamo battuti, tutto è finito e ritorniamo amici, ritorniamo fratelli. È un sistema. Ma infatti una delle cose impressionanti nella documentazione fotografica che ha riportato Biocca è dinanzi a queste fortissime mazzate in testa, poi trovi quello che ride, sì, col volto sorridente. Cioè, il ridere, quindi proprio una diversa catalogazione degli affetti, perché dopo delle bastonate così, che sono rituali, invece trovi la faccia sorridente di questo. Mi ha impressionato di più nelle fotografie. Il concetto di viltà è non presentare la testa, ma è anche dare due colpi. Tu sei un vile, hai dato due colpi, dovevi dare un colpo solo. È rituale, è per sfogare le varie questioni. Dopodiché sono venute le danze. Questo stesso gruppo ha fatto delle danze gioiose, con la prima volta danze di guerra, tutti dipinti di nero o a strisce nere, con gli archi, le frecce, senza decorazioni, eccetera. E poi le danze gioiose, con delle... con delle penne sulle teste, con delle foglie di palma tutte sfibrate in maniera da sembrare delle ali con le quali danzavano, e che hanno un certo interesse anche musicale. Come sì, sì, un interesse musicale dovuto anche qui, si ritrovano questi intervalli che si trovavano nei dialoghi ritmici, però nel momento di volerli, come al solito, perché si è sempre ossessionato, oltre al grafico e il diagramma dell'analisi acustica, naturalmente sempre il solito sforzo di riportarlo sul pentagramma, però a un certo punto era veramente quasi impossibile per alcune cose, e infatti è stata usata una trascrizione in molti punti per linee continue, perché nel momento in cui anche visualmente lo vedevi grafizzato in note, che perdeva completamente il senso della cosa. È un'astuzia, intendiamoci, è un'astuzia, però la nota accentua una virgoletta musicalità, certo, che non corrisponde al modo come poi è sentito. Le danze erano di diverse forme, sì. Biocca ha anche filmato, sì, alcune questioni, era circolare e frontali, sì, esatto, erano queste le due forme, sì, prevalenti, esatto, no? Esatto. Ecco, adesso arrivano delle figure, queste sono figure che rappresentano gli spiriti degli animali che stanno arrivando, che stanno partecipando, e fanno dei canti che assomigliano al canto dell'arpia o al canto del o all'urlo del giaguaro, insomma. No, in questo senso veramente il materiale Yanoama è una specie di enciclopedia di alcune tematiche dell'etnomusicologia o del desiderio, solito desiderio che potrà sembrare romantico sulle origini della musica. Qui c'è questa della imitazione degli animali, che indubbiamente è stata una delle interpretazioni delle origini dell'espressività musicale. Dopo, e questo ne parlerà Ettore minuziosamente, una dei documenti più interessanti è come questa melopea diciamo medicale, di guaritore, sia intersecata da una serie di altre formalizzazioni sonore che vanno dal grido al battito all'effetto affrullato della parola, e unitamente ad altri diciamo così, io non so come devo dire, di effetti fisiologici che andavano, il rutto, lo sputo, dare tutti gli elementi che però fanno ritualizzati, pure questi, non presi nella loro fisicità banale. In questo groviglio sonoro poi si espande anche. Poi questi rumori del ventre o dello stomaco, questa aria che esce violenta, non era contenuta affatto né dagli uomini né dalle donne, né provocava né ilarità né altro, faceva una specie di accompagnamento sonoro, uno strano accompagnamento. A noi prima ci faceva ridere, poi l'abbiamo accettato come una cosa assolutamente il solito normale. Problema del ridere che si diceva l'altra volta nelle cose con De Martino, no? Poi si rideva anche, perché certo c'è una tua consapevolezza che ti fa, ti rende l'evento talmente singolare che ti può provocare anche il riso, non soltanto. Sì. Ecco qui l'imitazione. Qua mi sembra che ci sia appunto l'imitazione. Questo c'è un'imitazione di un uccello, una specie di tucano. Ascoltiamo un attimo in primo piano prima di passare al rito sciamanico vero e proprio. Queste figure che passano da sole su un sottofondo di un canto, quasi un mormorio della foresta, sono figure di indi che vengono cantando, che rappresentano delle figure animali, che per esempio prima c'era uno, sembrava un uccello, in effetti entrava, sembrava che volasse o che cercasse di volare, mostrasse di volare, e faceva queste grida ritmiche su questo sottofondo, che non so se poi ritorna nei canti responsoriali, ci sono i canti responsoriali. Sorpreso sempre per questo tentativo che noi interpretavamo, loro volessero fare, di mormorio collettivo, mormorio della foresta, mormorio di un senso generico, non ritmico, ma lo sentiremo meglio nei canti responsoriali. Sì, c'è come questo continuo sottofondo di questo bisbiglio. Sì. Ecco, allora passiamo adesso ad affrontare forse il cuore del problema, la parte anche più intensa forse, più coinvolgente da un punto di vista, stare per dire emotivo, non so se uso il termine esatto, ecco, cioè la meloterapia sciamanica. Ecco, è quella che stiamo ascoltando sotto, già sentiamo l'aggressività. Questo è il momento dell'esplosione parossistica, a cui si alterna poi la monotonia della ripetizione. Proprio le tecniche sono molto vicine a quelle quando si parlava del tarantismo. C'è una registrazione di una scena di sciamanismo, no? Chiamiamolo anche meloterapia, ma non so se ci arriva proprio ad essere una scena di sciamanismo brutale per la cura del capo Wawanere Teri, che era malato. Allora questi sciamani lo cominciano a fare delle grandi danze con dei salti verso il cielo e delle urla. Sono queste che stiamo ascoltando? Sono questi che cominciano adesso. Sì. Poi cominciano a succhiarlo fino a far uscire del sangue. E poi cercano di estrarre dal suo corpo lo spirito malvagio, che è nascosto nel corpo. Attraverso, io qui adesso non ho la traduzione letterale delle parole, ma attraverso delle visioni di questo spirito, di questa foresta contraria, di questo sforzo che loro fanno per liberare il capo dalla... Questa è la terapia per un capo. Poi abbiamo delle forme di meloterapia completamente diverse per una donna, per un bambino malato, che hanno tutta un'altra cosa. In questa meloterapia viene fuori un po' tutto quello che poi si manifesta più dettagliatamente nelle altre, dal frullato all'urlo, tutte quelle varie tecniche vocali. Vocali, sì, okay. Ci vorrebbe. Ascoltiamo in primo piano allora. Appunto, come facevo osservare Biocca prima, è un succedersi di varie tecniche vocali che vanno dall'esplosione parossistica all'andamento ondulatorio, a tecniche del frullato della voce, a emissioni con volume di voce diverso e tipo di emissione, oppure grido. Ora, tutto questo non è assolutamente un disordine, tant'è vero che nell'analisi, diciamo così, musicologica, è stato possibile fare un catalogo di tutte queste forme. Fare un catalogo nel senso che è tutto formalizzato e non c'è nulla, appunto, come si dice, di scomposto, e è tutto fortemente, se si può dire, culturalizzato, nonostante gli aspetti possano sembrare brutalmente naturalistici. Ecco, in questo senso è un materiale eccezionale. Non è stato fatto un materiale di questo tipo dopo la letteromusicologia, che poi è stata in Alta Amazzonia. Esiste una registrazione, ma situazioni come queste dobbiamo dare atto a Ettore Biocca, sono state registrate anche con mezzi sofisticati in mobili, ma situazioni di questo tipo non sono state registrate. Temo che nell'Amazzonia, purtroppo, in queste zone si registrino altre ben più drammatiche situazioni. C'è dell'oro in queste zone, noi pure ce ne accorgemmo, e pare anche la trasmissione televisiva ha documentato una situazione assolutamente drammatica, che trasforma, che distrugge, che sovrappone il profitto a quello che può essere la cultura di un mondo che scompare. Insomma, è una cosa triste. Passiamo all'ultimo aspetto che abbiamo pensato di prendere in considerazione oggi col professor Biocca, ossia quello della lamentazione funebre. E volevo a questo proposito dire come la medicina, l'arte, ma anche la religione abbiano un fondo quasi comune. Questi gruppi indi sono endocannibali, cioè loro mangiano le ceneri dei propri morti, le ceneri delle persone care. E più volte noi della spedizione, quando avevamo arrivati ad avere confidenza, ci siamo sentiti dire: ma voi, se morirete qui, chi mangerà le vostre ceneri? Come farete voi? Perché l'endocannibalismo ha un significato ben diverso da quello che potrebbe così superficialmente sembrare. Ha il significato di dare pace all'anima inquieta dopo la scomparsa, dopo la fine. E questo concetto è anche un modo per salvaguardare i viventi, forse, dall'anima. No. Anche no, perché il nemico non lo ingeriscono, lasciano che gli animali lo mangino, lo lasciano che restino. Il proprio corpo diventa la sede della parte dell'anima della persona cara. Con l'endocannibalismo loro impersonano questa figura scomparsa. È un sentimento molto bello, però serve anche perché nel momento in cui devono vendicare la morte di un guerriero, i figli dopo 10 anni, dopo 20 anni, mangiano il resto delle ceneri per poter avere la ragione per uccidere il nemico. cioè è un mondo dell'aldilà legato con gli spiriti Ekura, che sono gli spiriti della foresta, gli spiriti del bosco. E con io adesso noi non abbiamo il tempo di entrare su questo. Qui ci sarà una lamentazione funebre. Io vorrei però due parole solamente leggere della registrazione di Elena Valero, la quale è assistita a tante morti, alla morte di un il marito fu ucciso in una battaglia, in un attacco di un gruppo nemico in genere per rubare donne, e un giovane fu ferito. E vorrei far capire il significato anche religioso di questi spiriti della foresta, di una religione che va rispettata perché è un sentimento umano nobile. Questo è un giovane Nyanyanawateri, era stato ferito all'addome con una freccia, si rialzò, si appoggiò con le mani al lungo arco e restò in piedi e disse: ora i miei Ekura. Gli Ekura sono gli spiriti che dominano la vita, che loro invocano contro i nemici, che loro invocano contro le malattie. Ora i miei Ekura mi stanno abbandonando. E cantò piano il suo canto di Ekura, perché gli Ekura hanno quel canto che noi non abbiamo potuto, il frullato, tutte quelle forme lì. Si ricordava poi del padre e diceva: padre mio, gli Ekura sono fuggiti, il loro sciapuno, la loro casa è vuota. Chiese: dov'è mio padre? Perché non c'è mio padre? Mio padre stava in un villaggio vicino. Non gridava, non piangeva. Solo quando si muoveva e sentiva tanto dolore diceva: Abe, Abe mi, padre, padre mio. Nel pomeriggio arrivò il padre. Si sentiva da lontano il pianto del vecchio. Diceva: o figlio, tu sei passato per questo sentiero. Ecco il tuo sangue. Non lasciar solo tuo padre. Tua madre già ci ha lasciati. Ora anche tu vuoi abbandonarmi? Il giovane era ormai disteso. Diceva: padre, non piangere. È così triste il tuo pianto. Non posso ascoltarlo. Calò la notte. Si alzò tremando, si appoggiò al tronco che reggeva l'amaca e rivolta al padre mormorò: padre, ora l'ultimo Ekura che mi stava vicino, che mi ha fatto vivere finché sei venuto, Pashoriwe, l'Ekura di scimmia, ora mi abbandona. Si strinse al tronco, diventò duro e cadde morto. Allora tutti cominciarono le loro grida e il loro pianto. Poi c'è due parole sulla registrazione di un canto di morte, analogo a questo che ascolteremo adesso, con le parole tradotte. E la gente dice: torna per questo cammino che eri solito fare. Perché non torni? Verso quali genti sei andato? In questa notte scura ti sei forse perduto? Perché non sei con noi? Perché non sei più con noi? Entra ancora nello sciapuno. Torna, torna ancora con noi. Anche gli uccelli sono tristi, col loro pianto piangono, sentendo il pianto degli Yanoama. Bene, queste sono espressioni che uno non si è lette, perché non si immaginerebbe che quelle voci che noi sentiamo abbiano un contenuto così umano, così simile al nostro. Bene, allora ascoltiamo il brano musicale. Thank you. questo, la lamentazione funebre. Sì, questa è la lamentazione funebre. Stavamo parlando con il professor Carpitella appunto sul fatto che qui in realtà non si sente la crisi parossistica. Sì, però ci sono altri documenti di lamentazione funebre dove c'è questo momento ondulatorio, diciamo monotono, che non era però questo qui, e poi c'è anche lì dei momenti esplosivi. Però è interessante nel documento che abbiamo sentito prima questo fatto che ci fosse il senso del pianto, questo del pianto con le ceneri, perché spesso quando si va a conoscere gruppi umani lontani si ha una visione stereotipa e si ha sempre l'idea che tutto debba essere collettivo, collettivizzato, ritualizzato, e ci manca quella dimensione invece di un quotidiano più immediato, che invece nel documento prima si sentiva questo senso del pianto e che fa ipotizzare, come aveva detto Biocca prima, dice che è simile al nostro, questo senso di universalia. Effettivamente la forma del lamento funebre è una delle cose che tuttora fa avanzare delle ipotesi sulle universalia in musica, ma dico, lo fa avanzare sul 60-70% sempre sulla cadenza discendente, però ancora un 30% in cui non è detto che tutte le lamentazioni funebri abbiano un andamento discendente. Spesso c'è anzi un rovesciamento, che la parte della cadenza diventa con un'alzata impennata della voce, però indubbiamente è uno dei più affascinati, e qui si ha questo comune denominatore che ci fa sembrare che questo momento del pianto sia in comune. Ma qui riporta quel discorso che fu fatto l'altra volta, quando dice Croce, quando moriamo siamo tutti uguali, e De Martino dice sì, ma c'è morte e morte, c'è pianto e pianto, senza che anche lì c'è una differenza. Bene, allora io ringrazio il professor Biocca per questo suo intervento, e dalla Amazzonia passiamo ad un breve documento, sempre collegato con i riti sciamanici, però questa volta riferiti all'area nepalese. Romano Mastro Mattei, docente attualmente di etnologia all'Università di Perugia, ha compiuto una serie di ricerche proprio su questo tema, lo sciamanismo, ricerca che il professor Carpitella ci ha segnalato e che considera di grande interesse. Le proponiamo, anche se brevemente, all'attenzione degli ascoltatori, attraverso questa sintetica testimonianza del professor Mastro Mattei che abbiamo registrato qualche giorno fa. Ecco, poi le commenteremo insieme col professor Carpitella. Il brano che stiamo ascoltando in sottofondo si riferisce all'inizio di un rito sciamanico in cui la musica ha un ruolo preponderante. Ecco, al professor Mastro Mattei, che è qui con noi, vorrei chiedere con più precisione di descrivere questa musica che stiamo ascoltando e l'importanza della musica nei riti sciamanici. Dunque, la musica nei riti sciamanici, specialmente di questo tipo, noi stiamo ascoltando una vera e propria seduta sciamanica, cioè un rito in cui uno sciamano raggiunge una condizione estatica e comunica con delle entità sovrannaturali, comunica direttamente. Da queste entità sovrannaturali, in parte, a tratti viene posseduto, a tratti egli impersona deliberatamente queste entità, che poi sono spiriti, dei e altri esseri che non possono essere definiti se non in termini tecnici, e raggiunge uno stato di coscienza alterato, uno stato molto complesso, e lo raggiunge attraverso un'esperienza musicale autoindotta. È lo sciamano stesso che suona i pochi strumenti necessari al rito. Lo strumento principe, di gran lunga il più importante, è il tamburo. In questo caso è un tamburo a doppia faccia, del tipo detto a specchio, cioè che si impugna con un manico che sporge rispetto alla cornice del tamburo stesso. Ecco, io non scenderei adesso nello specifico della descrizione degli strumenti musicali. E farei quantomeno un cenno a queste ricerche che sono iniziate nell'84. Sì, da tempo mi interessa, come ho detto, alla condizione statica e una delle manifestazioni più interessanti di questa condizione, che è quella appunto sciamanica. Ora in Nepal, come ancora adesso nella Corea del Sud, nel Giappone del Nord, in altri paesi, esistono delle forme di culto sciamanico che non sono state soppresse. Nel caso del Nepal non sono neanche state in alcun modo conculcate. Quindi il Nepal, da questo punto di vista, è il posto ideale per studiare questi fenomeni. Ci sono delle differenze tra sciamanismo e riti di possessione dell'area mediterranea, ad esempio? Sì, molto forti. E in genere per rito di possessione si intende normalmente un rito in cui il fedele viene posseduto da una divinità, ma non per una sua scelta o perché egli o ella scelga la divinità, ma perché la divinità, per così dire, scende su di lui. Cioè è un atteggiamento, almeno a livello cosciente, passivo, e il rapporto di norma è con una sola divinità. Nel caso dello sciamanismo invece si tratta di in parte di possessione, in parte di impersonazione, ma molto anche di un controllo che in modo esplicito o no lo sciamano dovrebbe esercitare su questi esseri sovrannaturali. Quindi è una situazione molto diversa dalla possessione. Qual è stata l'importanza nella sua ricerca di avere a fianco un etnomusicologo, che in questo caso è stato Francesco Giannattasio? Sì. È stato assolutamente fondamentale, perché per anni e anni io ho potuto limitarmi a registrare queste musiche. E mi sono sempre reso conto dell'importanza assolutamente cardinale della musica, che non esiste rito sciamanico che non sia sotteso o da una musica o perlomeno da un'espressione ritmico-gestuale. In genere da una musica. Però da questo essere in condizioni di registrare analiticamente questi fenomeni attualmente ci correva. Io ho sentito il bisogno di affiancarmi uno studioso qualificato come Giannattasio, che aveva già fatto, questo è il punto essenziale, delle ricerche sull'induzione musicale dell'estasi in Somalia. Si potrebbe parlare della voce come strumento primario nei riti sciamanici, oltre sì, al tamburo? Sì, senz'altro. Direi alla pari col tamburo. E quali sono gli altri strumenti essenziali e che ruolo rivestono appunto in un rito sciamanico? Molto brevemente. Hanno un ruolo molto minore la tromba d'osso, i campanelli che vengono scossi dal corpo stesso dello sciamano e delle collane simili a rosari che strofinate o agitate o mosse l'una contro l'altra, emettono anche questi un suono caratteristico, ma non paragonabile per intensità a quello del tamburo. Il tamburo è lo strumento principe. Ecco, era una registrazione, una testimonianza di Romano Mastro Mattei sui riti sciamanici in Nepal. Ecco, questo documento che abbiamo sentito rientra sempre nella problematica. Gli ascoltatori mi scuseranno che ritorna a questa tematica, il rapporto appunto tra l'operatività degli antropologi e la musica. E prima lo stesso è stato citato Francesco Giannattasio, che musicologo, elettromusicologo, che ha lavorato insieme a Mastro Mattei sul terreno. E Giannattasio osserva e sottolinea come gli oggetti produttori di suono adoperati nel rituale sciamanico si pongono, nell'opinione dei diretti protagonisti, come strumenti di mediazione fra umano e sovrannaturale. E a questo proposito mi sembra che opportunamente cita Rouget: il tamburo fa costantemente da supporto all'azione cantata, sottolineando gli effetti del cantante e garantendo il collegamento tra un episodio e l'altro. Esso svolge una funzione ora ritmica, in accordo naturalmente col canto, col carattere del canto o del racconto, ora di pura e semplice scansione, nel qual caso il significato delle formule tambureggiate può essere simbolico, descrittivo o puramente segnaletico. Ecco, questo ha spiegato bene Mastro Mattei quali sono le differenze in tal senso. E vorrei, sempre per rimanere un momento nella prospettiva dell'etnomusicologia italiana fuori di casa, la grande divaricazione che c'è nella nostra tradizione culturale tra gli studi nell'Oriente, Estremo Oriente, come può essere il caso di un'istituzione dell'ISMEO che è rappresentativa di questo tipo di ricerca, e la relativa documentazione musicale che invece in tal senso è piuttosto scarsa. Ecco perché è stato dato un rilievo a questa spedizione italiana nel Nepal. Ecco, rimaniamo allora sempre, per così dire, fuori casa, riportandoci in America Latina. Lo spunto lo possiamo trovare, ce lo offre ovviamente un singolare viaggio che Carpitella compie alla fine degli anni 60, alla ricerca di gruppi di comunità di emigrati italiani e per l'esattezza di veneti in Brasile e in Argentina. Sì, non vorrei dire che sì. Forse sono stato io che ho dato l'indicazione, è alla fine degli anni 60. Alla fine degli anni 60? Ah, 60. Sì, 60. Ah, 60. Sono io che ho detto. No, gli anni 60 sono gli anni che indagheremo proprio in questa trasmissione, in questo terzo incontro con Carpitella. Sì, è stata una ricerca per conto del Consiglio Nazionale delle Ricerche e per un centro di ricerca in America Latina. Era una interdisciplinarità di questa ricerca, era soprattutto tra linguisti e musicologi. E lo studio, pur trattandosi di un fuori di casa, ma è di un fuori di casa con gente di casa, non con fuori di casa extra casa. Cioè gli italiani emigrati in Brasile nella seconda metà dell'Ottocento e poi stabilizzatisi nel Rio Grande del Sud, dove esistono numerosissimi gruppi italiani con la denominazione della toponomastica del tipo Nuova Treviso, Nuova Venezia e altri paesi da dove erano venuti, che cioè erano venuti dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto. Dal punto di vista tanto linguistico è una cosa molto interessante, perché pur venendo dalla Lombardia, dal Piemonte e anche dalla Liguria, alcuni la coinè linguistica predominante è stata quella veneta, cioè non più il bergamasco così, ma un parlare veneto così, cioè che è comune a tutti, sicché sembra quasi che in realtà è che il veneto è quello che si presta più ad una italianizzazione. Questo c'è il motivo che i linguisti hanno saputo dare. Dal punto di vista del patrimonio musicale, volevamo vedere che era successo con le tante formulazioni teoriche che si dicono in questi problemi di emigrazione. L'emigrazione è notoriamente uno spaesamento non soltanto fisico, ma anche culturale. Una delle teorie ricorrenti negli studi demologici e etnologici è quella della conservazione nelle aree periferiche. In altri termini, le aree fuori da un centro di diffusione conservano di più i tratti strutturali che non quelli del centro. Vale a dire, gli emigrati che portano con sé la cucina, l'abbigliamento e anche i canti conservano dei modelli più intatti che non dai punti di partenza, che poteva essere il Piemonte o la Lombardia o il Veneto, in quanto questo patrimonio rappresenta un momento di rassicurazione nello spaesamento ambientale che hanno avuto durante l'emigrazione. Quindi documenti più arcaici in qualche modo. Ecco, per esempio noi abbiamo trovato dei canti al telaio, per esempio, che oggi non si trovano più nel Veneto, e che invece ancora questa donna cantava come se non fosse emigrata. E così abbiamo trovato anche altre forme di canzoni che ripeto, in Italia 20 anni fa sarebbe stato impossibile trovare, e quindi è una conferma delle aree periferiche. Naturalmente bisogna essere molto cauti in tutto questo, perché anche lì si è avuto un consumo dovuto all'emigrazione, al cambiamento delle situazioni culturali, sicché spesso adesso di questo patrimonio si trovano soltanto dei frammenti. Ecco, Francesco De Melis è un giovane studioso e musicologo romano che è stato anche allievo di Carpitella, ha condotto e ampliato la medesima indagine che aveva iniziato 15 anni prima Carpitella, recandosi nell'85 nella parte meridionale dello stato di Santa Catarina, nel corso di una ricerca interdisciplinare per conto della Regione Veneto e del Centro Studi Interuniversitario di Studi Veneti, i cui risultati sono raccolti in un volume curato da Meo Zidio. Ecco, Francesco De Merisi ci ha anche fornito i materiali sonori che ora ascolteremo e che commenteremo col professor Carpitella. Il primo brano è Le belle donne, è un canto della zona di Montagnol. Montagnol è un canto contadino. C'è una certa differenza, vero professore, tra il canto di campagna e i canti dei centri abitati? Sì, direi che anche in questa, nell'emigrazione si conservano queste differenze. Si conservano queste differenze che c'erano tra un canto cosiddetto di campagna e un canto urbano. Cioè questa stessa differenziazione di situazione topografica, diciamo, e poi anche sociale, nelle classi sociali, si è conservata anche durante l'emigrazione. Questo canto che abbiamo ascoltato è rivelatore dei diversi stili e sono frammenti che rimangono ormai a livello della tradizione familiare, cioè anche lì il tessuto paesano si è consumato, è soltanto a livello di familiare che si conserva la tradizione. Ascoltiamolo, merita. Se fate delle sue belle donne, le volevi i suoi ricini. Se fate delle sue regine, due seggete per la carrozza. Anche le belle donne, anche le donne belle, due seggete per la carrozza. Anche le belle donne per fare l'amor. Mi volevi le belle donne, cose fatte da sue belle donne. Mi volevi le sue titine, cose fatte da sue titine. E ne sentisse a sera mattina. Anche le belle donne, anche le donne belle, per divertirsi alla sera mattina. Anche le belle donne per fare l'amore. Ecco, questo era un canto tipicamente contadino, mentre invece adesso ascolteremo un esempio di un canto più dalle caratteristiche più cittadine. Ecco, forse si potrebbe dire che la differenza tra i canti rurali e quelli raccolti in città consiste essenzialmente, io credo, in un diverso tempo e un diverso tipo di emissione vocale. Più roca, più grezza quella dei canti, certo, rurali, più, certo, raffinata, anche più diciamo più raffinata, addomesticata, e più raffinata anche da un punto di vista. Anche le donne belle per divertirsi alla sera mattina, anche le belle donne per fare l'amore. Ecco, questo era un canto tipicamente contadino, mentre invece adesso ascolteremo un esempio di un canto più dalle caratteristiche più cittadine. Ecco, forse si potrebbe dire che la differenza tra i canti rurali e quelli raccolti in città consiste essenzialmente, io credo, in un diverso tempo e un diverso tipo di emissione vocale. Più roca, più grezza quella dei canti, certo, rurali, più, certo, raffinata, anche più diciamo più raffinata, addomesticata, e più raffinata anche da un punto di vista armonico. Armonico, certo. Ecco, certo, ascoltiamo, certo, allora anche questo Compare mi so sonare, raccolto a Cocal. È un canto appunto dai caratteri più cittadini. Sonare il campanello, come farà lo il campanello, tentele far campanello. Compare mi so sonare, o che diavolo saper sonare, so suonare il violino, come farà lo violino, si fa lo violino, tentele far campanello. Compare mi so suonare, o che diavolo saper suonare, so suonare il violone, come farà lo violone, si che te zinfa lo violone, si che te zinfa lo violino, tentele far campanello. normalmente si strutturano per terze, ma nel canto rurale talvolta sono presenti anche delle quarte, esatto, o delle quinte. Esatto, è la connotazione di maggiore caratterizzazione, questo tipo di intervallo. Questo per terze che è urbano, poi in definitiva però si riallaccia anche allo stile delle corali correnti, che sono quelli che proprio hanno raddrizzato nel senso della terza temperata. E questa conservazione c'è un po', ma ripeto che in questi ultimi anni c'è stata proprio in quel senso una corrosione. C'è uno scadimento anche della memoria dei suoni, questo è anche qualcosa che nota nel suo saggio Francesco De Melis, cioè a volte si tende a ripiegare verso soluzioni di ottava piuttosto di terza, che sono un po' più difficili ovviamente da intonare rispetto invece all'ottava. E questo avviene paradossalmente tra l'altro nei centri cittadini dove si canta di più che in quelli rurali. Non so se anche lei aveva notato queste differenze nel suo primo... Sì, questo già era presente nel 1970, si notavano queste differenze. Ecco, quelli che sono completamente scomparsi in questa ricerca dell'85, rispetto allora c'erano delle canti che possiamo dire paraliturgici, di confraternite, ma soprattutto paraliturgici, che sono scomparsi con le persone anziane che ancora se li ricordavano. Ritrovare questi canti era molto difficile. Il brano che stiamo ascoltando adesso in sottofondo è un brano molto, molto, molto suggestivo, direi, perché è un è Che canto sarà, ed è una coppia di moglie e marito originari della provincia di Treviso, sessantenni che... E questo riconferma quella conservazione nella tradizione familiare soprattutto. E infatti, ascoltiamolo in primo piano. Mi voglio dare un bacio alla mia bella e dopo darei, e dopo darei, e dopo darei. Mi voglio dare un bacio alla mia bella e dopo darei, e dopo darei, e dopo darei. Ecco, era Che canto sarà, una coppia di marito e moglie della provincia di Treviso. Ecco, sempre alla fine degli anni 60, i primi anni 70, Carpitella compie un'altra indagine sul campo in Unione Sovietica. Noi diciamo Unione Sovietica in generale perché la ricerca fu molto estesa, ma vorrei che fosse proprio Carpitella a introdurci in queste regioni che furono indagate allora e che oggi, tra l'altro, purtroppo sono alla ribalta per eventi proprio di queste ore assai poco edificanti. Ecco, questa di cui ha accennato lei non è stata proprio una ricerca etnomusicologica, è stata una, diciamo, come consulente per una serie di documentari etnografici sui popoli, costumi e usi dei popoli dell'URSS, in cui ero io una parte consulente dal punto di vista musicale e soprattutto etnologico. E indubbiamente con le centinaia di etnie che ci sono nell'Unione Sovietica, il panorama musicale è estremamente ricco. Mi ricordo di sopralluoghi in Georgia, in Bielorussia, Azerbaigian, Azerbaigian, Armenia e via dicendo. E l'esperienza era molto interessante perché almeno fino in quegli anni e fino adesso dato che questi sono paesi anche che vengono alla ribalta, non so in che misura ci saranno anche delle trasformazioni culturali, la situazione dello studio delle musiche tradizionali è abbastanza singolare. Per esempio, è interessante osservare che nel periodo, diciamo così, fino al 1955-54, definito come periodo stalinista, gli studi di ricerche etnomusicali non erano particolarmente sviluppati in senso centrale, cioè non so, Leningrado, Mosca, mentre al centro le diverse repubbliche avevano degli sviluppi, ma i risultati rimanevano entro i confini della Repubblica. Anzi, ci sono in sede di Accademia delle Scienze dell'Azerbaigian e del Gorno Altai e via dicendo, ci sono degli archivi veramente interessanti di quello che noi chiameremmo qui il materiale di base. Però dobbiamo considerare che in alcuni paesi, definibili in varie maniere, non è il caso di voler essere alla page oggi su queste definizioni, in vari paesi il cosiddetto folklore, la cosiddetta etnologia, rappresenta una preoccupazione dal punto di vista concettuale, politico e sociale. Per cui, se per esempio in Occidente il folklore veniva considerato come una forma di contestazione, in molti di questi paesi il folklore rientra nell'equazione folklore uguale miseria, etnologia uguale povertà. Allora, in questa preoccupazione, i documenti originali, che con un modo di dire potremmo dire i panni sporchi, non si mettevano alla luce. E cioè questa cosa rimaneva soltanto qualcosa che conoscevano gli esperti locali, ma che non venivano portati fuori le mura. Nel momento di portarli fuori le mura c'era una confezione, e che era la confezione del cosiddetto gruppo che noi diremmo folclorico. Però non le caratteristiche di quello che era un gruppo folclorico lì e come da noi, che potremmo chiamare, che da noi è proprio folcloristico, sono molto diverse. C'è la manipolazione che si ha dell'originario, tipo, ma poteva essere in Urso, anche in Jugoslavia, anche in Romania o in Grecia. Allora, in quel posto effettivamente si ha una confezione, ma è una confezione che ha una soluzione di continuità, ma che comunque deve nascondere l'originale, proprio per questa preoccupazione concettuale e diciamo anche politica. Quindi noi abbiamo avuto una specie di dicotomia in questo viaggio. Vedevi le fonti, determinati materiali. Poi però nel momento della socializzazione, no, doveva avere una confezione, se vogliamo dire una battuta, vestiti in doppio petto fin dalla mattina. Cioè, nel senso di questo. Però c'è quindi questa distinzione è molto importante, ciononostante traspare una tradizione di etnie e di musicalità estremamente complessa. Questo è un brano. Questo è un brano della Georgia. Della cattolica. Quindi, Georgia. I famosi polifonie. Sì, è un canto a Tamara. Sì. Tamara è una regina, sì, del popolo georgiano tra il 1100, sì, e il 1200, un periodo quanto mai fiorente per questo popolo prima dell'invasione dei mongoli. Lo ascolterei perché veramente, sì, è un bellissimo brano. È uno degli esempi classici quando si parla di polifonia europea. Sì. Intanto voglio ricordare che siete all'ascolto di Antologia, sono le 15:23 e ospite di Antologia per tutto il mese di gennaio, questo è il terzo appuntamento, il professor Diego Carpitella. Quello che stiamo ascoltando è un canto della Georgia, un canto polifonico della Georgia. Ecco, voglio anche ricordare che questi materiali, queste musiche ci sono state fornite da Rudy Assuntino, che condivise le esperienze di questo viaggio, come d'altra parte anche altri ricercatori, con Diego Carpitella. Adesso passiamo a un altro ascolto, che è un canto locale, contadino, sempre della Georgia. Ecco, vogliamo parlare, professore, della vocalità della Georgia e della vocalità georgiana, della vocalità del mondo contadino. Sì, a questo proposito, quando si parla della polivocalità georgiana, diciamo così, quelli che sono addetti ai lavori trovano subito dei collegamenti con la polivocalità che abbiamo ascoltato in qualche trasmissione dei Trallallero Liguri, sì, e poi anche con la polivocalità dei baschi in Spagna. C'è questo sottile legame, anche se poi uno se li va a analizzare ci sono le differenze, ma l'impianto generale è un collegamento. Le, nonostante sia della metà degli anni 30, c'è un libro nella letteratura etnomusicologica che parla delle origini della polifonia di Marius Schneider. Fu un libro molto importante perché prima si riteneva che la polifonia fosse legata alla scrittura e che quindi non ci fosse una polifonia di tradizione orale, mentre lui dimostrò con delle trascrizioni fatte negli archivi di Berlino che la polifonia c'era ed era anche preesistente alla tradizione scritta. Oggi è di grande interesse lo studio della polivocalità di origine di tradizione orale, perché si tratta di mettere spesso a punto storicamente di coloro che sostengono che c'è stata prima l'oralità e poi la scrittura, o che addirittura la polifonia orale sia stata influenzata da quella scritta. E quindi è un capitolo molto importante dell'etnomusicologia. Ecco, intanto sottofondo stiamo ascoltando dei richiami musulmani, richiami registrati fuori dalla moschea nell'Uzbekistan, un altro stato del Caucaso. Ecco, e ci servono in fondo da passaggio tra la cattolica Georgia e il musulmano Azerbaigian. Ascoltiamo l'altro brano che si riferisce appunto a un matrimonio a zero nel Azerbaigian, sempre fornito da Rudy Assuntino. Non so se sono dei posti che ha visitato anche Capitella, proprio in quella viaggio precedente che ricordavamo. Quello, questi sono posti che ho visto. È interessante perché... Ecco intanto il matrimonio a zero che si svolge, è una grande festività. Il panorama in questo senso dei popoli, i costumi dell'Unione Sovietica è veramente strabiliante, perché si passa appunto dai georgiani all'Azerbaigian ai canti caucasici, alcune di queste popolazioni sono in questo periodo nella cronaca, e lì noti la resistenza forte della propria identità culturale attraverso la musica. Guarda il passaggio che abbiamo sentito prima tra il georgiano e questo, e uno è sorpreso dalla estrema varietà di questo immenso territorio, che come è noto rappresenta l'unico esempio di territorio senza soluzione di continuità, e quindi passi da culture completamente diverse, l'aspetto musulmano, le preghiere cattoliche, le preghiere ortodosse. Questa è una festa nel più stretto stile della tradizione musulmana. Si svolge per strada, lungo le strade. Si sentono rumori di macchine, clacson, eccetera. Sì, per strada, come uno potrebbe trovare anche a Tunisi o in Algeria. Esempio di un matrimonio a zero. Ritorniamo in Italia, sempre sul campo con Diego Carpitella, l'indagine degli anni 60. Studi, indagini in equip, tra le quali non possiamo tralasciare quelle svolte in Sardegna, sull'Argia, insieme a Clara Gallini, che di questa importante indagine fu ideatrice, e Michele Risso, Giovanni Gervis, che abbiamo già avuto nostro ospite la scorsa settimana a proposito del tarantismo pugliese e delle ricerche che furono condotte alla fine degli anni anni 50 con De Martino. Ecco, noi abbiamo chiesto a Clara Gallini, Clara Gallini, ecco, dopo l'esperienza di insegnamento in Sardegna all'Università di Napoli presso l'Istituto Orientale, ha rilevato ora la cattedra di Vittorio Lanternari di etnologia all'Università La Sapienza di Roma. Cosa dicendo, abbiamo chiesto a Clara Gallini di ricordare quella esperienza e soprattutto di valutare a tutt'oggi l'interesse per i risultati che furono raggiunti all'epoca, cioè tra il 60 e il 65. In appendice alla registrazione con la Gallini, che ascolteremo adesso, parliamo anche delle confraternite musulmane e del rito dello stambali in Tunisia. E anche qui Diego Carpitella fu presente per valutarne gli aspetti etnomusicologici. Magari possiamo ascoltare, se il professore è d'accordo, adesso il nastro che abbiamo realizzato con la Gallini, poi possiamo commentarlo insieme e quindi rilevare gli aspetti più prettamente etnomusicologici, sia del rito dell'Argia, sia delle confraternite musulmane. Ascoltiamo. Oia ninia, ninia do casalza, despunta gil che sia, andada gil che le sa, sarunca. Un vestimo nudo l'uest. La parola argia significa variopinta e porta spesso vicino l'aggettivo ballariana, che significa appunto ballerina, insieme colei che balla e colei che fa ballare. L'argia ballariana è la variante sarda di quello che abbiamo già conosciuto in queste trasmissioni col nome di tarantismo pugliese. È una variante che è molto molto diversa per una serie di motivi che ci apparivano già abbastanza intuibili all'epoca in cui si fece la nostra ricerca e che via via ci si sono sempre più chiariti. Ho condotto assieme a De Martino, ma soprattutto personalmente e poi in equipe con appunto Gervis e Risso per l'aspetto psichiatrico e Carpitella per l'aspetto etnomusicologico, una ricerca a tappeto in Sardegna sul ballo dell'Argia che rappresenta lui stesso, che comporta lui stesso nel proprio interno una serie infinita di varianti locali. Ed è anzi, credo questo, l'aspetto decisamente più interessante di una rivisitazione oggi del ballo dell'Argia, che è molto diverso dal tarantismo pugliese, ma che è anche diverso in Sardegna. Il ballo dell'Argia si rappresenta come ballo terapeutico che si deve compiere per una persona punta dall'Argia, appunto da questo animale a metà reale e a metà mitico, che viene rappresentato ora come una formica, ora come un ragno, e che della cui puntura si dice che sia estremamente pericoloso e che comunque possa essere guarito con un ballo di 3 giorni. Aspetto abbastanza simile al tarantismo, però anche molte differenze. Molte differenze perché durante la nostra ricerca abbiamo potuto notare che le persone punte dall'Argia erano state realmente spesso punte da un animale velenoso, e quindi in questo senso siamo un po' distanti dal tarantismo, laddove il ragno è sempre un ragno mitico. E anche perché il ballo sardo dell'Argia presenta 2 grandi varianti regionali. Nella zona a occidente dell'isola e prevalentemente intorno a Oristano è la persona stessa, il malato, diciamo così, che balla e che rappresenta il suo male, rappresenta l'Argia che lo possiede. Nel resto dell'isola il cosiddetto malato se ne sta dolorante, semiassopito, disteso per terra, e il ballo avviene attorno a lui. Ed è un ballo dalle incredibili connotazioni a metà tra l'esorcistico, perché tende a scacciare il nome del male, ma anche contemporaneamente a chiamare il nome del male, a farlo venire perché balli con i ballerini o le ballerine e la cosa finisca spesso in un grande carnevale. L'interessante è vedere il ruolo della musica e il variare dei ruoli di attore e di spettatore, di paziente e di guaritore, rispetto al fatto del ballare e dell'eseguire musiche e danze, perché appunto in alcuni casi sono le persone cosiddette sane e cosiddette guaritrici che danzano per guarire la persona, in altri casi è la persona che danza per guarire se stesso. In questo secondo caso è la persona che dà anche spettacolo del proprio male, che rappresenta il proprio male e la propria lotta col nome che lo possiede, lo rappresenta e insieme lo chiama, insieme lo scaccia per gli altri, ed è lui che dà spettacolo. In altri casi invece, e sempre in Sardegna la cosa è molto interessante, i ruoli si capovolgono e sono gli esorcisti, i cosiddetti esorcisti, che danno spettacolo al malato. E il rito guarisce quando il malato, in un certo senso, si dirà soddisfatto del rito e riderà. È un grande gioco di continui capovolgimenti tra il ruolo del malato e il ruolo del guaritore, il ruolo del ballerino e il ruolo di chi sta fermo, il ruolo di chi rappresenta e di chi è rappresentato. L'interessante, l'affascinante della ricerca sulle varianti del ballo dell'Argia è vedere come questi giochi varino di località in località attorno a elementi apparentemente simili, ma continuamente rinnovati e trasformati nelle parti. La ricerca è stata condotta ormai più di 20 anni fa, anzi il libro I rituali dell'Argia è uscito 20 anni fa. La cosa buffa è che se ne riparli oggi, dico buffa anche perché sta tornando un certo interesse per questi argomenti e per tornare a una riflessione complessa, non solo dal punto di vista musicologico, ma anche dal punto di vista antropologico, proprio su questi temi, malattia, guarigione e musica ed esorcismo. Non a caso mi è stato chiesto di tradurre appunto in francese per gli editori Verdier il testo l'anno scorso, ed è uscito come La danse de l'Argia, e ho sentito il bisogno di riscrivere il libro per Liguori nella ballerina variopinta, perché 20 anni dopo si sentivano certi limiti nella stesura delle cose. Ora quindi, a distanza di 20 anni, posso parlare con più distacco, ma anche con più piacere. Era già allora una ricostruzione al limite della memoria, e dopo di allora casi non se ne ebbero più. Anche noi non abbiamo potuto assistere direttamente a dei casi, ma soltanto ad alcuni casi ricostruiti. Questo non significa che la memoria non fosse presente, e non fosse presente molto forte, anche perché era sorretta dal canto e dalla musica. Ed è stato poi il filo appunto della musica e del canto e dei testi e dei balli che ci è servito per ricostruire poi la memoria dei singoli casi di ballo dell'Argia che praticamente in ogni villaggio, in anni abbastanza recenti ancora o anche più abbastanza distanti, si erano verificati. Poi c'è stato un secondo momento di analisi più approfondita che si è fatta con gli psichiatri anche in due zone campione, laddove il rito appariva più chiaramente differenziato. Quindi una zona in cui la persona fosse lei la ballerina, diciamo così, tenendo presente che il più delle volte non era una lei ma era un lui, e che questo lui si travestiva da donna. quindi con un grosso problema anche da risolvere su questa questione del travestimento. Era la zona dove avveniva l'esplorazione musicale, cioè il musicista esorcista, che in questo caso aveva un ruolo di tecnico specializzato per i balli dell'Argia, confrontabile in parte al ruolo degli esorcisti terapeuti del tarantismo pugliese. Il musicista interveniva suonando varie musiche di villaggi vicini finché si trovasse quella più adatta al villaggio di provenienza dell'Argia. L'Argia è un'alterità, l'Argia viene dal mondo dei morti e dai paesi vicini, perché i paesi vicini, più o meno distanti, sono sempre paesi misteriosi ed ostili, e il ballo dell'Argia ha quindi anche una funzione non soltanto di rappresentazione di queste alterità distanti e di queste paure, ma è alterità della donna, alterità dell'altro negli altri villaggi, e insieme quindi di affermazione implicita di una propria identità sessuale messa in crisi, e di villaggio anche messa in crisi dalla malattia di uno dei suoi membri. Esplorazione musicale, si diceva, travestimento della persona. La persona anche in questa zona occidentale compie questo rito altrettanto singolare del parto simbolico. I dolori cessano quando la persona che si dice incinta, non tutti nel rito si può dire incinta, partorisce una propria bambina, che è rappresentata simbolicamente da una bambola di stracci che le viene data da cullare al seno. In altri casi, sempre nella zona occidentale, la persona può piangere e dirsi sedotta e abbandonata e raccontare le proprie storie. Questi racconti possono avvenire attraverso una forma di interrogatorio esorcistico, di cui potremo sentire anche degli esempi musicali. Sentiamo un interrogatorio, le si chiede: tu sei vestita da lutto, dimmi se sei nubile, sposata o vedova. Questi sono i tre tipi fondamentali dell'Argia, a cui corrispondono tre tipi di musiche diverse, due o tre tipi di musiche diverse, musiche d'amore e musiche luttuose di lamenti funebri. E in questo caso la persona risponde cantando una ninna nanna, perché è un'Argia che ha partorito un bambino e canta la ninna nanna al proprio bambino. E a mangiare un rosso e cammino a su un cutto e pari scusa vi pia. E a mangiare un rosso ma chi se vesti e lutto darà si se vagadia. O guidemo tu si sposo. Glielo chiedo. E lui ha detto così. Cioè, anni mia, anni mia. Io già fui sposa, vaendo su sodravo. Tengo si sposo mio, disperta savi pia. Questo ascolto era riferito a una delle fasi del rituale, cioè l'interrogatorio esorcistico. Parliamo adesso di un'altra fase, non potendo parlare del travestimento perché non abbiamo documentazione sonora, parliamo dell'esplorazione musicale, un'altra fase del rito. L'esplorazione musicale abbiamo potuto bene ricostruirla ad Ollastrasi Magis grazie a questo fisarmonicista, terapeuta, si chiamava zio Efisio, il quale ci ha raccontato come andavano le cose secondo la sua esperienza, e anche poi ci ha fatto ascoltare un esempio di esplorazione musicale che abbiamo ricostruito. Quando corre nella casa di un argiato e gli dice, lo trova già disteso sul letto, ed allora inizia a provare diverse musiche e diversi suoni. L'esplorazione musicale per lui non è molto lunga e molto difficile, data la sua esperienza in un certo senso. Una volta che trova la musica giusta, cioè considerata adatta il termine, a far ballare il malato, continuerà con questo ritmo e con questo tipo di ballo per i 3 giorni che sono i giorni d'obbligo di durata del rito. Quindi in questo senso è molto simile al tarantismo pugliese. In questo senso è la forma più simile al tarantismo pugliese. Quello che stiamo ascoltando a cosa si riferisce di preciso? Esattamente questa esplorazione, cioè i diversi balli e l'esplorazione musicale, la fisarmonica di Zio Fisio. La persona presa dall'argia può ballare da solo o in compagnia o eventualmente anche appoggiarsi spesso a una sedia, e anche questo modulo coreutico lo troviamo soprattutto nel tarantismo spagnolo. Da un punto di vista antropologico, l'interesse di questi studi sull'arcismo? Sono molto complessi, a mio avviso, e ritornarci mi fa via via scoprire molti elementi. Mi ha fatto leggere un rito terapeutico, mi ha fatto capire come una crisi possa essere culturalmente condizionata, cioè come si soffra e si rappresenti le proprie malattie nei quadri culturali di un determinato ambiente. Non solo, ma mi ha fatto anche capire come si rappresenti la propria malattia nei quadri culturali della terapia relativa alla malattia stessa. Cioè io rappresento la mia argia ballando nelle zone in cui il rito mi farà guarire ballando, rappresento la mia argia stando fermo laddove il rito mi farà stare fermo per guarire e farà sì che gli altri ballino. Quindi mi ha fatto capire che esiste un nesso molto culturale di segni che vanno dal segno della malattia al segno della terapia e della guarigione, come segni collegati l'uno con l'altro, come segni che a loro volta mettono in atto dei ruoli molto specifici di malato e di guaritore. E mi ha fatto anche capire che questi ruoli di malato e di guaritore variano da cultura a cultura e anche che possono al limite interscambiarsi tra di loro. Il guaritore corre il rischio di diventare malato perché si identifica col malato, il che è anche un elemento estremamente moderno, direi, che ci fa riflettere parecchio sulla sanità di certe terapie cosiddette magiche di tempi passati. De Martino aveva già intuito un po' tutto questo discorso e l'interesse e la modernità degli studi di De Martino su questo punto. Chiaramente oggi abbiamo più strumenti per articolare molto meglio questo discorso, molto più strumenti di quanto non avessimo in passato, e soprattutto più strumenti anche che ci permettono di collegare l'analisi dei ruoli con l'analisi dei segni. Oggi siamo un po' più avanti in questa direzione. De Martino leggeva il tarantismo in un senso fortemente tragico, drammatico, ed è possibile che il tarantismo visto da De Martino fosse di questo tipo, ma era forse anche De Martino che vedeva il tarantismo così. Dell'Argia sempre mi si sono rivelati questi aspetti ambigui, da una parte estremamente tragici e dall'altra anche ludici, giocosi, fino ad alcuni riti dell'Argi in alcune località mi si trasformavano in grossi carnevali. D'altra parte anche De Martino mi parla del tarantismo, mi cita il Baglivi che definiva il tarantismo i carnevaletti delle donne. Quindi questo aspetto, questa dimensione carnevalesca di messa in scena della malattia e della morte, che è anche una messa in scena ludica e che può essere, quindi, che può riscattare la malattia e il disagio attraverso il riso e il gioco e la pantomima, e che può avere anche dei segni più larghi in generale, che sono appunto i segni di una messa in scena collettiva della malattia e della morte, mi sembra una grossa aspetto del rito dell'Arcia da recuperare. Vai Antonio alla tappi più e cagino non si mori de su va, cantu si mori mi de va un'altra buruga sartemi da povicata, buruga sartemi da povicata. Vai Antona ne vai Antona, vai Antone alla tappi più e cagino non si mori de su va. Questo canto che stiamo ascoltando in sottofondo è un canto che si riferisce, è un canto satirico raccolto nella zona di Baunei. Dove con Diego Carpitella, ti ricordi Diego, siamo calate in una serata verso il tramonto, e nella parte vecchia del villaggio abbiamo incontrato queste donne scure, alle quali peraltro appena dicemmo sapete niente del ballo dell'Argia venne fuori l'ira di Dio, si misero a ballare, a cantare, a muoversi e erano entrate nel ballo dell'Argia, e così fu poi potemmo registrare questo pezzo, che è insieme una satira nei confronti di una delle ballerine che ha avuto un figlio illegittimo, quindi il ballo serve anche a quello, e insieme poi di un canto tra il carnevalesco e l'esorcistico per scacciare dalla comunità questo animale velenoso e richiamare alla vita Antonia, perché ha ancora molto pane da mangiare, molta carne da godere, molta lana da tessere nella propria vita. A fora su borrotti, carvo borrotti su lau, carvo borrotti su lau, manceoli abbocau, canceoli abbocau. Da questo canto esorcistico sardo passiamo invece al rito dello Stambali che stiamo ascoltando in sottofondo. È una ricerca che fu iniziata da Clara Gallini, è un lavoro ovviamente di KIP a cui partecipò anche Diego Carpitella nel 65 circa. Sì, direi forse un pochino dopo, verso la fine degli anni 60, inizio anni 70, da come vanno i miei ricordi. Non ci ho scritto niente perché questo lavoro poi finì in un documentario televisivo. Lo Stambali tunisino è un rito di guarigione da possessione di spiriti. Questo rito viene eseguito da un piccolo nucleo di suonatori esorcisti che appartengono tutti alla stessa famiglia. Noi ne conoscemmo a Tunisi una che abitava nella zona molto molto periferica e molto povera, e la cosa interessante è che erano dei neri, quella famiglia si chiamava Sudani, come tutti i neri immigrati in Tunisia, il che mi fa sospettare che Una serie di questi tipi di musiche, così come quelle riti di culti di possessione, di guarigione, che noi troviamo in Africa settentrionale e anche in Egitto, come nell'osario egiziano, e dove pure i suonatori sono dei neri, abbiano sì delle parentele, se vogliamo, ritmiche, non lo so, con i riti nostri, con i nostri tarantismi, ma che abbiano anche delle origini centroafricane che a mio avviso andrebbero meglio esplorate. Ed è rimasto questo problema, l'apparente parentela di e somiglianza di riti esorcistici tra tutti i nostri tarantismi e questi riti del Nord Africa esiste come somiglianza. Non sarei però in grado di dire che ci sia un rapporto diretto tra gli uni e gli altri. Ascoltando in sottofondo è un rito dello Stambali, la registrazione invece che abbiamo ascoltato si riferiva appunto a una registrazione che abbiamo fatto qualche giorno fa con la signora Gallini a proposito del rito dell'Arcia e delle confraternite musulmane. Ecco, come le osservazioni che ha fatto Clara sull'Arcia ancora una volta mi sono sembrate estremamente fini e sottili. E volevo dire un momento prima di parlare di questo che quella ricerca in Tunisia, quel viaggio in Tunisia è del 67. Di cui stiamo ascoltando adesso le stiamo ascoltando una registrazione e stiamo trovando, mi sembra, quella registrazione quando c'è la donna che esce dalle acque. Esatto. Mi sembra che esce dalle acque con il sacrificio del caprone. E in queste musiche lo strumento caratteristico è lo stambali, che sono specie delle grandi nacchere, delle nacchere metalliche, e come diceva appunto prima anche Clara Gallini, sì, questa è una musica anche di una confraternita per lei, che viene dall'Africa. L'interesse per lei dal punto di vista proprio etnomusicologico, adesso questa domanda sì. Quest'oggi ricorre un po' spesso, sì. Ogni volta che tocchiamo sì. Un argomento, certo. Un'indagine, certo. Una ricerca con altri, certo. Altri ospiti. Sì, ma questo dipende anche dai rapporti, non di parentela, dalla constatazione che alcuni eventi dell'Africa del Nord hanno delle similianze, danno una problematica analoga soprattutto al tarantismo pugliese, cosa che osservava anche Clara, e quindi questi rapporti di simiglianza, di affinità mi avevano attratto, intendiamoci, mi aveva attratto più che altro in alcuni aspetti soprattutto corporei cinesici, perché dal punto di vista musicale è evidente che si certo. Tratta di culture musicali assolutamente diverse. Vorrei un attimo però sulle osservazioni che ha fatto Clara sull'Arcia, estremamente sottili, è interessante come si colloca la musica in quello che è un microsistema sardo. Un microsistema sardo, cioè che la differenza in generi e repertori non è così divaricante, ma si tratta di un sistema concentrato dove evidentemente ha molta importanza il tipo di esecuzione dello stesso repertorio. Cioè il sistema è un microsistema. Il repertorio è variato, ma con una interpretazione che dipende dalle circostanze. Allora i muttos, i muttettos, le danze che abbiamo sentito prima, hanno, se uno dice perché è una musica durante gli eventi dell'Arcia, è il modo di esecuzione, dove ci sono rispetto. D'altra parte questo era anche per la tarantella e la pizzica tarantata, ma in Sardegna si ha questa possibilità di continuo cambiamento nell'ambito del microsistema. Mi fa ricordare quando si parla di un'Arcia, della terapia, del carnevale, del mondo alla rovescia, del dolore, di varie concentrazioni affettive, psicologiche che si inseriscono dentro a un contenitore musicale, mi fa ricordare sempre quello che mi disse molti anni fa un contadino nell'Avellinese. E parlavamo, lui era stato emigrato, e io ho detto, dico, ma per te che cos'è questo suonare? Anzi, io mi espressi in termini culti, dice, cos'è la musica? E dice, sapete, la musica è quella cosa che tu fai una cosa e ne pensi un'altra. C'è la possibilità di inserire la propria circostanza psicologica dentro a un contenitore di un microsistema, questo sardo, e questo era l'interesse. Invece in Puglia la divaricazione dei cosiddetti generi era molto più forte. E poi il tarantismo pugliese, se non ricordo male, appunto, si svolge sempre su un ritmo, la terapia del tarantismo, certo, su un ritmo unico di tarantella, sì. Invece vi sono molte più sfumature. Sì. Per quanto riguarda la musica nei riti dell'arte. Sì, però voglio dire che noi non abbiamo sentito la formalizzazione più vistosa, quella, sì, quello della pizzica tarantata. Poi c'è anche un repertorio cantato, però. Però si sente che non appartiene a un microsistema come quello sardo. Sì. Ecco, tra le indagini condotte da Carpitella in equipe più o meno folte, negli anni 60 vanno ricordati almeno altri tre momenti essenziali. Gli studi nell'Aretino, i carnevali dell'Avellinese, che faceva adesso un brevissimo cenno il professore, e quelli nella Valle dei Mocheni. Ecco, gli studi nell'Aretino sono del 65 e nacquero per fornire il consorzio per le attività musicali della provincia di Arezzo di un corpus sonoro di registrazione di musica di cultura contadina, soprattutto di quel determinato genere che chiamiamo ottava rima, stornello, canto narrativo. Ecco, credo, professore, che sia fondamentale per introdurre tale genere parlare in fondo delle occasioni in cui questo genere ha una reale collocazione e un preciso significato. Sì, lei ha visto che soprattutto, a parte l'intensificazione che si è avuto con l'agriturist, in genere però si va nei paesi, non so, nei paesi dove c'è un artigianato, si va spesso in Toscana o in Umbria. Sì. C'è un fortissimo artigianato oggettuale della cera, del legno, del ferro. Ecco, il caso dell'Aretino è un caso di artigianato della voce. Cioè, come si prosegue l'artigianato di determinati oggetti, poi c'è un artigianato della voce, cioè la gente si tramanda un modo di cantare secondo stereotipie che non fa pensare a nessun realismo in cui si possa ipotizzare che la realtà sia proiettata dentro ai versi. No, è un artigianato dove ogni tanto ci sono delle varianti. E il canto di ottava rima, come questo su un famoso tema di Pia De Tolomei, sono degli artigiani della voce che conservano questo stile e ripetono e fanno le gare di questi canti. Appartiene a una fascia sia con mera contadino artigiana, ma è interessante la tecnica di affinare, come i vasi che si comprano nei negozi artigianato, così se potessi, adesso a parte che succede, potresti comprare delle ottave rime, perché le cassette se le fanno da sole, quindi poi le vendono anche, quindi hai la possibilità di questo artigianato. Quello che è interessante, il grande mistero dell'ottava rima, che nessuno sa datare a che periodo appartenga storicamente l'ottava rima. Mi sembra che ne abbiamo parlato una volta, ne abbiamo accennato. La scorsa settimana, a proposito anche delle possibili contaminazioni tra ottava rima e musica colta. Ottava rima e musica colta, però io potrei fare, si può anche ipotizzare l'altro lato. Sì. Cioè, mentre c'è una musica contadina, come quando venne Cirese, si discusse sul prosciugamento o meno dei suoni rispetto al testo verbale, questa dell'ottava rima è quasi un codice che trova sempre a coprire un testo preesistente. Se lei dà un testo, noi l'abbiamo provato nel Prato Magno, abbiamo fatto una volta un'esperienza con questi artigiani della voce, cioè di dare improvvisamente le ottave del tasso e loro te lo cantano subito, perché basta che vedono una struttura più o meno in endecasillabi, sono subito stimolati a contare l'ottava. La cosa più divertente è che una volta demmo il testo della Divina Commedia e siccome doveva inserirsi nel tipo di melodia, trasformava da terzina in quartina la Divina Commedia, cioè prendendo un verso dell'altra terzina e assimilandolo al primo. E questo fa parte, diciamo così, della manipolazione dell'artigianato. Una cosa interessante è anche che, per esempio, in questa zona non si trova più assolutamente musica strumentale. Significa che il rapporto con la città o altro ha eliminato, salvo che si tratta di organetto, di solite storie, ha mantenuto soltanto questa tradizione di artigianato vocale. Che si esplica poi essenzialmente nelle veglie? Le veglie, noi avevamo la fortuna, non per gli abitanti, se non lo so, 25 anni fa, di andare in un paese, Ponte alla Piera mi sembra, dove non c'era ancora luce, e assistemmo a una veglia proprio vera, reale, che cominciò verso le 11 della sera e finì alle 4 del mattino, dove in mezzo a questa festa eccetera c'era naturalmente anche il prete del posto, il quale cantava allegramente con tutti ed era preso anche in giro da amici che poi gli offrivano così. C'è il senso della veglia, una specie di ricettacolo dove poteva esplodere tutto. E fu un'esperienza singolare perché non potevo pensare che nel 65 ci fosse ancora un paese della Toscana che non c'era luce. Ascoltiamo allora in primo piano una parte di questa lunghissima ottava, famosissima tra l'altro, che Pia de Tolomei è uno degli esempi dei poemi memorizzati e più sì. noti tra l'altro. E qui bisognerebbe parlare di questo problema, il testo così come loro lo sanno è un testo ottocentesco. Sì. Però la tecnica vocale e gli estremi della storia sono più antichi. Molto più antichi. E questi testi arrivavano attraverso poeti cantori appena alfabetizzati, seconda elementare, terza elementare, che rappresentavano poi il centro di diffusione della storia e del modo di cantare. Il pianta tutte e due bagno le ciglia, nello tragitta per la gran guerriglia, ma chi non fantumasia loro vi resta, via che delle bellezze a meraviglia, ecco Tighino che pensier si desta. La conforta, la tenta e la consiglia, dicendo Pia ma che parola è questa, Ghino per soddisfare a quell'invito, a soddisfar con lei quell'appetito. Taci rispose Pia oscimunito, traditore di Nello iniquirio, quello che hai detto tu non si ha sentito e il tuo brutto parlava da noblio. Io penso a Nello, caro mio, voglio andar via di questa foresta e voglio andare a far là una meglio vita. Di quello che dicevamo prima, che questa stereotipia di figure, di maschera, la moglie, il marito, che questo è un contrasto tra moglie e marito. Gli ascoltatori non stavano ascoltando, sì, perché i microfoni erano spenti, sì. Il professor Capitero stava appunto commentando, diciamo così, in privato, no, questi ascolti, appunto, rendiamoli pubblici. Il contrasto, come si sa, è anche una nota forma letteraria delle origini della letteratura italiana, il contrasto di Alceo d'Alcamo. Sì. E questo riconferma un momento gli argomenti a cui avevamo accennato, cioè che molte forme della tradizione scritta sono prosciugamenti di alcune forme orali. E il contrasto è una di queste forme prosciugate che poi ha le origini della letteratura italiana. Volevo dire che poi la stereotipia di queste due maschere, moglie e marito, per esempio, non è proprio della tradizione contadina. Naturalmente poi negli anni 60 era molto frequente il contrasto tra prete e comunista, è una specie di Don Camillo e Peppone ed era molto divertente perché i due che cantavano poi erano, in quel caso particolare, erano tutti e due comunisti, e quello che doveva fare il prete non gli veniva mai l'ottava, doveva fare un conflitto continuamente perché non gli veniva la rima soprattutto. No? Addio del mio potere, il mio milione, marito mio non essere birbone. Lo vedi, ti sono molto affezionata. Ecco, qui siamo invece in un'altra zona, cioè la zona è sempre la stessa, in un'altra, diciamo, ritualità, possiamo dire anche ritualità. Certo, certo. Sono gli stornelli della mietitura. Sono gli stornelli della mietitura di tipo antifonale, con due voci di coro maschili e femminili sovrapposti spesso che dialogici. Allora c'erano ancora, si potevano trovare situazioni di mietitura. Mi ricordo che provavamo persino da raccogliere durante la luna di sera, intendiamoci, c'erano già le macchine, però c'erano delle piccole oasi e in quelle circostanze naturalmente era stimolato anche il canto di tipo tradizionale. È un canto veramente molto diverso da quelle, per intonazione, emissione di voce, stile, diverso da quello dei dei contrasti che abbiamo visto. Sì. È un canto che ha un più comune denominatore a livello contadino. Adesso è praticamente impossibile trovare più questi canti, sono soltanto nella memoria, non esiste. Ma anche l'introduzione delle macchine ha sicuramente, sì, penso, influenzato, ma se non altro proprio nel ritmo, ah, questi canti, oltre che nella trasmissione. Nel ritmo, guardi, lei ha fatto un'osservazione acutissima. Sempre in tutti i paesi, in questi ultimi anni, ciascuno dice, ma un tempo era molto più lento il cantare, ma questo lo trova qui, in Albania, tra gli indios. Non è stato forse abbastanza è stato biologicamente, la bioritmica, nel senso che veramente i ritmi non sono più lenti come quelli di un tempo. Quindi c'è proprio indubbiamente un fatto neurologico che ha influenzato l'accelerazione del ritmo. Ecco, allora dalla Toscana, diciamo così, veniamo ai Carnevali della Vellinese, un lavoro di indagine che fu iniziato in Campania da Annabella Rossi, antropologa, e Roberto De Simone, e che portò alla pubblicazione, oltre naturalmente alla parte, della parte sonora, anche a un volume, Carnevale si chiama Vincenzo. Quale fu l'importanza dell'etnomusicologo in questo cioè di Carpitella? No, ecco, sì. una cosa parallelamente. Perché Roberto De Simone, appunto, faceva l'etnomusicologo in quella situazione. In diciamo. Quella situazione, sì, perché era nel momento proprio di assorbimento di una tradizione, sì. Ed è stata un'esperienza diretta in cui lui è voluto andare proprio in mezzo. Noi ci siamo conosciuti una mattina livida d'inverno. Proprio a Bellizzi, dove si faceva una canzone di Zezza, e lui stava col registratore. Non ci conoscevamo così di nome, però non noi ci eravamo mai conosciuti. Parallelamente, questa ricerca invece che avevamo fatto noi, che era sempre con l'università, soprattutto riguardava la cinesica, la gestualità, la coreografia, non riguardava gli aspetti strettamente musicali, però l'incontro c'è stato. Vorrei dire soltanto, per come ho visto che uno degli esempi che ascolteremo è una tarantella di Montemarano, che questa tarantella era già stata registrata nel 1955 in quel viaggio che lei ha ricordato dell'antologia con l'Omax. Famosa, sì. Sì, e perché è importante questa tarantella? Perché è un carnevale che fa perno tutto sulla che fa perno tutto su questa tarantella, cioè la tarantella è l'asse del carnevale. Quella che stiamo ascoltando adesso, sì, in è una tarantella che è stata studiata, è stata anche definita una tarantella caleidoscopica, soprattutto un giovane studioso, Giovanni Giuriati, ha studiato questa tarantella. Perché questo interesse per i carnevali? Grande interesse. Ma era un momento anche molto di intensità ideologico, il carnevale come mondo alla rovescia, come contestazione. Cioè una contestazione dell'ordine, del tutto a posto, del tutto in ordine e niente a posto. E quindi il carnevale era uno strumento di contestazione. Questo è stato l'interesse per cui per un decennio si sono stati, fino addirittura al troppo, i carnevali sono stati al centro di interesse come mondo alla rovescia di contestazione. Situazione metastorica in cui si può criticare, salvo che poi arrivava la Quaresima, allora si ritornava nei ranghi. Mentre lei parlava mi veniva in mente anche un'altra ragione forse dell'importanza di questa tarantella, cioè della permanenza di un aspetto coreutico, processionale. Esatto, questa era una danza che tuttora si svolge con varie vicende lungo le vie del paese, e c'erano una o due compagnie di danza con questi capi e ballo che erano vestiti da pulcinelle, dirigevano già dei bambini che cominciavano fin dai 5-6 anni a ballare questa tarantella, ed era uno degli esempi visivi più evidenti della trasmissione del sapere di tradizione orale. i contrasti tipici del periodo del carnevale. E è diventata anche una specie di questo a itinerante. Ci sono 4-5 strumenti, delle piccole bande. È questa che stiamo ascoltando. Quella che stiamo ascoltando, ed è una canzone che si può dire anche di questo, perché gira per il paese, vengono dati dei doni in cambio di un augurio implicito e sottinteso. È interessante la formazione di queste piccole bande di strumenti, 5-6 strumenti a fiato, che hanno, come si può sentire chiaramente, una sonorità molto diversa dalle bande istituzionalizzate. Poi ci sono 4-5 motivi che sono dei vari personaggi della Zesa. Questa è una registrazione che è stata fatta l'anno scorso proprio a Bellizzi, e quindi è un documento molto recente. Interessante in questo clima vedere la discontinuità di questi eventi. Cioè, certe volte in alcuni paesi per 2 anni non trovi più una zezza o non trovi più una rappresentazione dei mesi, e invece poi 2 anni dopo riappaiono, perché dipende dal tipo di persone che rientra nel paese durante il carnevale e quindi mette su una zezza. È una specie di singolare revival discontinuo dovute alle circostanze sociali. Chiaro che 20 anni fa, 30 anni fa avveniva puntualmente ogni anno. Per quello che riguarda questa rappresentazione, ci sono anche dei costumi tramandati familiarmente e altri anche acquistati. Per esempio i vestiti di Montemarano, molti sono presi dall'Opera San Carlo di Napoli e quindi hanno una caratteristica melodrammatica operistica. Ecco, cerchiamo di completare ancora brevemente il quadro delle indagini di Diego Carpitella negli anni 60. La Valle dei Mocheni forse è ancora un altro argomento che va citato. Ecco, la Valle dei Mocheni può considerarsi come una sorta di oasi etnico-linguistica nell'ambito dell'area culturale altoatesina. Sì, questa della Valle dei Mocheni è strettamente legata a una mia esperienza di insegnamento all'Università di Trento, all'Istituto di Sociologia dell'Università di Trento, proprio nel 1968-69, un periodo anche per quell'università caldo dal punto di vista sociologico e ideologico. E mi ricordo che fu proprio Franco Alberoni che mi telefonò e mi disse: guarda, in questo clima di nuove materie, di desideri, eccetera, eccetera, mi sembra che l'etnomusicologia possa essere collocata. Io naturalmente andai con molto entusiasmo. Si formò un piccolo gruppo di studenti e poi dopo un po' decidemmo di fare una ricerca. Devo dire la verità che in quel momento, non so se in tutte le università, ma all'Università a Trento c'era una rapidità burocratica che io poi non ho più ritrovato un'esperienza ulteriore. E cioè che neanche chiedemmo una piccola cifra, naturalmente proprio per i viaggi, questo l'abbiamo avuto, come dire, vai alla cassa e prenditelo. Certo, se fosse sempre così sarebbe proprio una cosa divertente. E andammo in questa Valle dei Mocheni, che era considerata una valle famigerata: stupratori, assassini, emarginati, ladri, eccetera, eccetera. E c'era una nomea di quella che possono avere altri gruppi, tutti i luoghi comuni sugli zingari, per esempio. Gli zingari. Comunque, andammo nella Val dei Mocheni e il lavoro non era tanto facile, perché lì c'era un'abitazione di tipo sparso. Come si chiamano, scusa Roberto, queste costruzioni? I masi. Il professore ha già presentato in qualche modo, svelato la presenza di Roberto Leidi. Sì. Roberto Leidi è gentilmente venuto qui da Milano per partecipare a questo incontro con Diego Carpitella. I masi, quindi andare a trovare delle persone, come al solito, in queste ricerche l'eccessivo isolamento non è che sia subito una garanzia del ritrovamento di una tradizione, altro l'eccessivo isolamento spesso può essere una consunzione. E comunque girammo per questi masi e in uno di questi masi trovammo una donna che era abbastanza anziana, che parlando la sua lingua dei Mocheni ci disse subito un lamento funebre, un tipo di donna che io poi ho rivisto in un documentario che ha fatto un regista di Trento, Renato Morelli, una donna che racconta la sua biografia e che con le stesse caratteristiche avrebbe veramente potuto replicare anche un lamento funebre. E mi sembra un documento che introduce, dato che ormai prima ho detto che c'è Roberto Leidi, veramente introduce all'Arcaico Nord. Sì. C'è c'è un'intensità, è una cosa che abituati sempre radici a sud, no, sentendo questa lamentazione funebre, fu una delle cose che ci sorprese di più, anche perché questi studenti che erano quasi tutti del nord e le hanno sorprese anche loro. Ascoltiamo allora questo lamento funebre prima di addentrarci, di proiettarci verso l'Arcaico Nord, come diceva Carpitella. Mui mui, se ne mai lo vuoti, ma storno del mondo, io te ne pini a lungo, mi ci vuole mai tigna, ove che denk tu, ove non c'è mai cessan, che ho un cessan, che ho tau se per camen, un tio te ne pini a lungo, ho se mui dugo lotta a lungo. Ma lieber Gott der Herr, ich bitte, ist mir mein großen Lüft. Darum ist mein Kochtessen, darum ist Kochgrün, darum ist Kochkrapfler, und darum zu essen, und darum gut, proppi gut gehaust zu haben. Jetzt ist mir Sturm, oi, moi, moi, wie wäre mein Tier, was könnte die Zeit, wenn Kirch der Heier sein, ja, lohnt die anderen Homen sein, Mann. Und die bin allein, wie soll ich mal sein, aber ich mal Leute sein. Hast du mich da gelassen allein? Da könnte ich was noch, du bist das all mir gegangen. Und hier bin ich nicht, wie war ich mal sein, die anderen haben sein Mann. Und die bin allein, hast du mich da gelassen allein? Da denkst du wieder gewinnt sein, auch im Wald. Und da macht Holz und Streib und habe gekocht den guten Kaffee und trunken. Ma lieber Gott der Herr Hoschmann genommen und mir die Dua. Ecco, questo è un lamento funebre, correggeva giustamente Leidi, non dell'area culturale Alto Atesina, ma della provincia di Trento. Ecco, appunto, è qui con noi Roberto Leidi. Roberto Leidi non credo abbia bisogno di particolari presentazioni come etnomusicologo. Nella prima di queste trasmissioni su e con Diego Carpitella abbiamo sondato e vagliato la vena meridionalistica dei primi studi demologici e in particolare etnomusicologici. Comunque è un dato di fatto che il nord non sia stato immediato oggetto di interesse da parte degli studiosi, almeno fino al secondo dopoguerra, perché non si riteneva che potessero esistere delle tradizioni popolari degne di essere studiate. Mentre invece il nord si è rivelato poi ricchissimo da questo punto di vista. Ecco, a Leidi vorrei chiedere di tracciare le coordinate fondamentali di questa ricerca, anche se purtroppo un incidente tecnico, ce ne scusiamo con gli ascoltatori, ce ne siamo scusati con Roberto Leidi, che giustamente è rimasto molto contrariato. Un incidente tecnico non ci permette di poter essere esaustivi da un punto di vista della documentazione sonora. Esaustivi è quasi un eufemismo, in quanto purtroppo non abbiamo in realtà, purtroppo oggi, documentazione sonora da far sentire. Allora, parlare di musica, di tradizioni popolari soltanto a parole è uno sforzo che chiedo di compiere a Roberto Leidi. Sì, no, è un peccato, evidentemente sono cose che possono succedere. Io avevo preparato un nastro con una serie di esempi e cerchiamo di tirare avanti senza ascoltare. È molto difficile parlare un solo esempio. Un solo esempio si è salvato. Abbiamo ma non una, è del nord. È del nord. È la ballata Gli Anelli. Mi può anche andare bene. Poi l'ascoltiamo. Dunque, certamente c'era un'opinione corrente che il nord avesse subito un tale processo di trasformazione nel processo di sviluppo economico, sociale, da cancellare o da rendere ormai a figli esigui, a rivoli esigui o sopravviventi insignificanti, manifestazioni musicali di tipo tradizionale. Questo credo che nelle trasmissioni precedenti con Carpitella avete già ampiamente illustrato la matrice prevalentemente o quasi esclusivamente meridionale, non solo delle ricerche sulla musica popolare, ma in generale della demologia, quella che si chiama demologia in Italia. Nel dopoguerra poi ci fu tutto il fascino della scoperta del sud, da Cristo che si ferma a Eboli, a tutta una serie di eventi che hanno ancora di più concentrato l'attenzione sul sud. Quando nella incomincio a occuparmi di musica popolare, io vengo da esperienze di musica contemporanea, lavoravo con Berio Maderna, la fondazione dello studio di fonologia della RAI per esempio, o mi occupavo anche di musica americana. E quando incominciai nella seconda metà degli anni 50, devo pagare alcuni debiti di riconoscenza. Uno fu proprio l'incontro con Alan Lomax, che era in Italia nel 1954, che aveva compiuto proprio con Carpitella questa grande ricognizione che è fondamentale sia parte almeno per oggi per i materiali raccolti allora, ma è soprattutto è stato di importanza enorme come fatto di promozione, di rivelare, e va detto che in quella raccolta vi erano anche alcune ispezioni cosa, al nord con alcuni materiali di grandissimo livello, dei quali credo avrete anche forse già parlato. Sì, abbiamo dato anche, ecco. A un certo punto si muove una ricerca al nord, cioè si mette in dubbio, io metto in dubbio che veramente tutto quasi sia stato cancellato, e le sorprese non sono state poche. Naturalmente la situazione è diversa, diciamo che era diversa per quello che era avvenuto nella storia e nei processi economici, degli sviluppi di un'industrializzazione che in Italia settentrionale incomincia alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, di profonde trasformazioni, di trasporti interni di popolazioni, la crescita delle città, Milano-Torino soprattutto già all'inizio del Novecento, e quindi però le sorprese non sono mancate. Devo dire che mentre in nelle aree mediterranee e quindi Italia meridionale ha ancora una presenza consistente il fatto ritual cerimoniale, cioè di grandi eventi o religiosi o non religiosi, sentivamo prima la zezza, ecco, diciamo che nel nord naturalmente tutto questo è meno vistoso. Probabilmente è sempre stato anche meno vistoso, non è soltanto i processi di trasformazione che l'hanno reso più, probabilmente è stato meno vistoso. Teniamo presente che gran parte del nord, tutta l'area alpina, ha un periodo di vita, di possibile vita collettiva e anche individuale all'aperto, che si può restringere a pochi mesi all'anno, quindi moltissime delle manifestazioni sono interne, non sono esterne, sono nel chiuso. Perché sulle Alpi, sulle nostre Alpi, da ottobre, dai primi di ottobre fino a maggio, è difficile fare qualcosa fuori, in paesi in cui magari non si riesce neanche a uscire di casa con 2 metri di neve e queste situazioni precarie. La ricerca come si è sviluppata? Si è sviluppata per esempio possiamo sentire appunto questo esempio che si è salvato fra un secondo, proprio nella individuazione della presenza di una grande tradizione europea che è quella della ballata, cioè della canzone narrativa. La ballata è una storia cantata, breve, rispetto alle lunghe storie, abbiamo ascoltato un momento fa la Pia dei Tolomei, sì. Se non sbaglio, la Pia dei Tolomei è semplicemente interminabile, ecco, è lunghissima, no? È piena di particolari. La ballata invece procede in modo assolutamente stringato, quasi sempre in forma dialogata, non ha precisazioni di carattere, non ha morale, molto ed è una forma di canzone narrativa, di racconto cantato, che è presente con dei testi in alcuni casi sembrano la traduzione letterale dalla Scozia all'Italia settentrionale, dalla Catalogna alla Polonia. Ritroviamo alcune ballate, per esempio quella inglese notissima nell'area anglosassone di Lord Randall, ecco, e si ritrova in Italia settentrionale con un testo che messo a fronte sembra la traduzione, proprio verso per verso. Ed è comune a tutta l'area anche il modo antico di cantare, il modo vecchio, il modo solistico. Ed è un modo nel quale è importante la percezione del testo. La musica è il supporto, formalizza il verso, lo sostiene, lo rende gradevole, lo rende accettabile, lo rende più comunicativo. Ecco. Anche le tecniche di canto della ballata, là dove ci si incontra non la persona che sa delle ballate, ma quando si incontrano i cantori o soprattutto le donne le cantatrici di ballate, che è una cosa diversa. C'è gente che sa delle ballate e ci sono quelli invece che cantano le ballate. Ecco, la tecnica è anche in molti casi uguale dalla Scozia fino giù. Una di queste tecniche che abbiamo rilevato poi in Scozia, in Normandia e in Scandinavia, è quello di iniziare la prima strofa senza decorazione, cioè la melodia molto lineare, e introdurre poi un incremento di decorazione nel corso del procedere delle strofe, per ritornare spesso alla linea melodica senza decorazione. Naturalmente, quando parlo di decorazione non parlo di decorazioni melismatiche come quelle meridionali, sono delle micro decorazioni, per tornare, quando c'è il momento clou, il momento centrale, il momento drammatico, il momento che conta, è importante tornare alla linea senza decorazione. Tutto questo naturalmente è difficile da cogliere per chi non è interno a questo, perché sono cose piccolissime, però sono le grandi tecniche dei cantori di ballate, come dei raccontatori di fiabe, lo stesso tipo, per muovere e rendere mobile, rendere variato un procedere strofico che apparentemente è monotono. Sentiamo, per esempio, qui non è molto, nell'esempio che sentiremo purtroppo non è molto applicata questa tecnica della decorazione. È una grande cantante di ballate, morta purtroppo, era una donna di Asti, si chiamava Teresa Viarengo. Franco Coggio le Die l'abbiamo registrata per più di 2 anni consecutivamente, e poi recentemente ancora parlavo con James Porter, che è grande studioso della ballata scozzese, che insegna negli Stati Uniti, e insieme abbiamo convenuto che quello di Teresa Viarengo è certamente il più grande repertorio individuale di ballate di tutta Europa. E abbiamo registrato oltre 420 pezzi con Teresa Viarengo. Non cantava solo ballate, era l'intera storia della musica popolare. Partiva dalle ballate più vecchie, arrivava alle Rose Rosse, alle canzoni degli anni 30, straordinarie. Era di origine di campagna, la madre però era già venuta in città a fare l'operaia, era casalinga. E sentiamo qui, ecco, la ballata che sentiamo è appunto una ballata arcaica, è Gli Anelli. Il titolo degli Anelli è quello che Nigra ha dato. Ecco, la storia è quella di questo principe Raimondo che parte per la guerra, lascia a casa la moglie con un bambino e la affida al fratello, cioè al cognato della donna. Quando il marito è via, il cognato tenta la donna rifiuta, allora lui va dall'orefice, si fa fare gli anelli uguali a quelli della donna, della moglie del fratello, e va al campo dove c'è il marito, il marito gli chiede come va a casa, va bene per me, male per te, perché tua moglie ha fatto l'amore con me. Allora il marito salta a cavallo, e lì c'è un'immagine molto bella, dice: senza la sella gli mancavano gli stivali, tanto forte faceva andare il cavallo che le pietre della città faceva tremare. Arriva a casa, la moglie gli va incontro col bambino, per salutarlo lui piglia il bambino e lo uccide buttandolo giù dalle scale. Allora lei dice: hai ucciso il mio bambino, uccidi anche me. Allora lega la moglie alla coda del cavallo e la trascina per le strade della città, e dice: tutte le pietre, tutti i cespugli erano coperti dal sangue della Maria Rosso. Lei sta morendo, dice: visto che devo morire, ecco la chiave del mio cofanetto. Apre il cofanetto, il marito scopre che gli anelli ci sono. Allora dice: per una lingua che ho ascoltato, in tre dobbiamo morire e ci uccidere. E in fondo è la storia di Otello, di Iago e di Desdemona. Sentiamola. Prinsi Raimonda svel maride, dama gentile se chiel vel spuse, le pancurnan ca le maride, o che la guerra i tu ca giandè. Fai taste caso, fratelin, perché i guernesi al suo bel fiulin. Fai taste caso, fratelin, perché i guernesi al suo bel fiulin. O se vi dico, dama gentil, vorrei si femmina amora mi. O no, no, no, prinsilium, mi fa spastorta mio marin. Prinsilium va da landur a dur, per fesi fe duianelum e duianelin, compagnat cui la marium sin. Prinsi Raimond la vista venir, o che nuvere importevi a mi. Ecco, questo naturalmente, questo era una delle, diciamo così, la constatazione della presenza. Questo è un caso di questa di Teresa Viarengo, ma ce ne sono anche altre. Accanto a questo c'era poi l'identificazione invece degli stili polivocali, sì, cioè degli stili a più parti. Anche lì si riteneva che il modello SAT, il modello cioè della corale organizzata e normalizzata in fondo su modelli di tipo tardo-romantici, l'origine è di discendenza austro-tedesca, non è un caso che proprio la SAT venga costituirsi a Trento su un'esperienza addirittura precedente già voluta da Cesare Battisti. Però anche lì, qui appunto avremmo potuto ascoltare qualche esempio, ma si possono dire due parole, e invece si è constatato l'esistenza di stili polivocali, come più parti, nei quali assolutamente non sono stati influenzati, modificati o non si sono modellati sul modello SAT. Posso citarne alcuni, visto che sentiamo, tutti i canti a bordone, per esempio, partendo dalle Alpi Marittime, che forse avete già ascoltato, per esempio di Ceriana. Il Tir di Premana. Premana è un piccolo paese della Valsassina in provincia di Como che ha una particolarità, che produce probabilmente circa il 50% di tutte le forbici del mondo. È un paese di 1000 abitanti che produce solo forbici, è un paese di una ricchezza estremamente, il comune non solo non è in passivo ma è in attivo, anche perché è ancora vivissima la pratica del lavoro volontario per il comune, tutta la selciatura del paese il comune ha comprato, le pietre i cittadini le hanno messe giù, e quindi c'è un forte senso comunità. E lì c'è questa pratica del tir, che è uno straordinario stile polivocale, in cui non è a parti fisse, non è a parti determinate, cioè sono 15, 20, 30 persone che si rubano continuamente la parte e in un magma sonoro. E poi naturalmente sono stati individuati altri stili vocali, quello di impianto para melodrammatico dei braccianti della pianura delle bonifiche ferraresi bolognesi e così. E poi la musica strumentale è stata l'altra scoperta, perché su quello non si pensava veramente che ci fosse. Io potrei citare, sono qui come nelle nostre ricerche, tre grandi personaggi, tre grandi musicisti tradizionali usciti, pensare a Ernesto Sala, morto quest'anno, e suonatore di piffero. Il piffero, sappiamo, è una parola che non vuol dire niente organologicamente, tutto un piffero. In questo caso era un oboe senza chiavi, con piruette e quindi con ancia interna in bocca, e aveva questo bellissimo repertorio col piffero di gighe, alessandrine, monferrine, eccetera. Melchiade Benni, violinista dell'Appennino bolognese, anche lui con un grande repertorio di balli antichi, e i violinisti del carnevale di Bagolino. E poi, naturalmente, mia e non solo mia, ecco, perché qui devo ricordare che quando si parla di queste ricerche al nord non era assolutamente un fatto individuale, non era solo mio questo lavoro, ma di un gruppo di persone che si sono venute formando, e diciamo che prima l'origine di queste ricerche, la prima sede di queste ricerche fu all'interno dell'edizione Avanti col Nuovo Canzone Italiano, anche se in quel periodo furono molto più centrate sul canto politico e sociale che non sul canto. Successivamente, diciamo dall'inizio degli anni 60, invece poi partì l'esperienza della Regione Lombardia, che è stata la prima regione italiana e credo che in quel modo ancora l'unica che abbia istituito questo servizio per la cultura del mondo popolare, cioè un servizio organico dell'assessorato alla cultura dedicato alla ricerca, e lì naturalmente sì, e ci fu anche un allargamento evidentemente ai modi moderni. E di questo, ecco, siamo proprio entrati in area, nella nuova area che tentiamo di esplorare adesso, ecco, sono gli anni 60, entro cui ci stiamo muovendo in questo terzo incontro con Diego Carpitella, anni 60 che hanno visto verso la conclusione del decennio, l'inizio del successivo, sia Carpitella, sia Leidi, sia tanti altri che sicuramente nomineremo tra poco, impegnati in un acceso dibattito. Mi riferisco ovviamente al folk revival e, ancor prima, agli inizi degli anni 60, a una ridefinizione, o forse sarebbe meglio dire definizione, di che cosa voglia dire folklore. Ecco, è una volontà, un atteggiamento di probabilmente allargare il raggio entro cui far rientrare più manifestazioni a carattere popolare. E con noi anche oggi il professor Lombardi Satriani. Lombardi Satriani è stato ordinario di storia e tradizioni popolari nella facoltà di lettere dell'Università di Cosenza, ha insegnato all'Università di Messina, Napoli, Austin, nel Texas, ed ora insegna in facoltà di lettere e filosofia, cattedra di etnologia all'Università La Sapienza di Roma. Ecco, col professor Satriani, che ringrazio per essere venuto, con il quale appunto tenteremo di ripercorrere quel periodo denso di avvenimenti e di fermenti, ma Io inizierei proprio da un estratto dalla prefazione di Canti sociali italiani, Canti sociali italiani a cura di Lady Gianni Bosio, una importante opera del 63 con circa 1000 testi, 5 volumi se non sbaglio. No, i 5 no, volumi erano le intenzioni, erano quello che è uscito solo il primo. È uscito solo il primo. un lavoro che in qualche modo si pone comunque sia come punto di partenza, perché si presenta come una proposta di lavoro e non come un'opera ovviamente compiuta, come giustamente appunto ricordava Lady adesso. E punto di arrivo perché costituisce in fondo il primo risultato di un lavoro di ricerca che aveva già dato manifestazioni pubbliche. Basta ricordare i Dischi del Sole, l'edizione Avanti, il Nuovo Canzoniere Italiano, sia la rivista sia ovviamente il gruppo. Sì, io ricorderei anche come un contributo di promozione su questo anche quella parte del lavoro di Cantacronache, non della nuova canzone ma della canzone politica, perché Cantacronache pubblicò una serie di dischetti di nuove canzoni di Liberovici, Amodei eccetera, ma pubblicò anche tre dischettini molto, molto stimolanti, anche molto datati, ma è molto datato anche quello che lei leggerà della certo, del 63. Beh, cioè tutto è datato in quel momento, sono gli anni ma 60. Tre dischi in cui c'erano contenute anche alcune registrazioni di canti sociali e politici sì, originali, cioè non rifacimenti. Sì. Ascoltiamo un attimo questo estratto dalla lettura, dai canti sociali, ricordo che le parole sono di lei e di Bosio. Il canto sociale rappresenta il momento di base del folklore nell'età in cui le masse popolari acquistano coscienza e si autofigurano nel proletariato, sia contadino che urbano. Dalla dissoluzione della civiltà tradizionale, legata a una società popolare soltanto istintivamente impegnata nella protesta, ma in sostanza costretta dalle strutture economiche e sociali, meglio dal carattere non dinamico di queste strutture, a una condizione di rassegnata accettazione di uno stato di cose ingiusto, nasce il nuovo folklore, che trova appunto il suo momento più compiuto nel canto sociale e politico. A questo punto si colloca una seconda considerazione. Che cosa si deve intendere per folklore? A riprova della precarietà delle concezioni correnti sulla tradizione popolare, si tenga presente la varietà e l'incertezza della definizione di questo settore di studi, chiamati a volta folklore, tradizioni popolari, etnologia, etnografia, demologia, demopsicologia, etnogenesi, antropologia culturale, antropologia sociale, eccetera. Se poi dalla terminologia si passa agli impegni definitori, la confusione e l'incertezza non diminuiscono, anzi aumentano. Ancora recentemente Diego Carpitella, polemizzando con Paolo Toschi, invitava a mettersi finalmente d'accordo su che cosa debba intendersi per folklore. In quale misura il canto sociale si apparenta al canto tradizionale? Il legame esiste ed è sempre e comunque avvertibile, ma il rapporto è inverso al grado della protesta, della denuncia, della contrapposizione. Il canto sociale manifesta cioè l'esistenza di un rapporto non mutato che si va mutando, la presenza di una produzione cosciente quale punto di arrivo di una produzione che la tradizione critica ci rimanda disgregata e come un'immagine rovesciata. In altri termini, la conoscenza non soltanto descrittiva del canto sociale, visto come momento emergente della cultura popolare moderna, rappresenta un punto d'arrivo critico e metodologico assai importante per prendere coscienza nuova della cultura del mondo popolare, rovesciata e disgregata dalle tradizionali posizioni critiche. Un estratto dai Canti sociali italiani del 1963. Professor Carpitella voleva aggiungere qualcosa prima di lasciare la parola sì, a Lombardi Satriani. Sì, non volevo assolutamente interrompere questo filo che si è iniziato sul revival. No, volevo soltanto aggiungere una piccola nota alle cose estremamente intense che aveva detto Roberto Leidi. Quando, non mi ricordo se è stata nella prima o nella seconda trasmissione, quando abbiamo parlato di questa esplorazione lunga del 54-55, io dissi in questi ultimi anni che si tratta di ridelineare un profilo della storia della musica popolare italiana, perché veramente allora avevamo soltanto la possibilità di fare un sondaggio. Una delle cose che ci lasciò molto sorpresi fu il Fio del Conte che facemmo nel Bergamasco, per esempio, quella a tre voci. E fu un indice, era una spia di tutta una situazione che andava lì dalle convenzionalità per la polifonia. E poi effettivamente le ricerche sulla musica strumentale e anche sulla vocalità singola del nord, questo è stato frutto di tutte le ricerche che si sono avute nel nord e che hanno avuto come protagonista Lady. Quindi effettivamente è cambiato, oggi bisognerebbe già da tempo riscrivere questo profilo del Museo Polare Italiano. Certo, ma tu hai detto una parola che mi piace molto e che però suona abbastanza nuova, hai detto riscrivere la storia. Sì. Ecco, sì. Introdurre questo concetto di storia, sì, di storia. È molto importante, perché questo mette da parte, anche se tutti ormai l'abbiamo messo da parte, questo concetto dell'immobilità, della notte dei tempi, di qualcosa. Noi sappiamo benissimo che quello che noi oggi consideriamo, quando abbiamo sentito quella ballata, cioè questo è arcaico, probabilmente 100 anni fa o 200, l'ipotetico ricercatore che non c'era, avrebbe forse sentita come moderna rispetto a qualcosa che, cioè, è sempre stato in movimento, in minore o maggior misura, secondo le zone, secondo le situazioni, ma si deve finalmente cominciare a parlare di storia. Certo, tanto in sottofondo. Questo poi ritorna veramente, sì, nelle notti profonde dell'oralità, e come dicevo l'altra volta, non è che sia possibile fare un processo a tutto quello che è stato prima del fonografo Edison. La verità è che per l'etnomusicologia bisogna fare i conti anche con una storia i cui canti erano sentiti ma non trascritti, quindi bisogna fidarsi sulla parola. Quindi è vero, oggi noi abbiamo la constatazione di questa trasformazione, ma se io qualche volta mi fermo a pensare che la rapidità di mutazione essere stata come il nostro in quest'ultimo secolo, mi viene un senso di vuoto immenso. Penso che i tempi siano stati un po' più lenti. Però la storia è una delle questioni dell'etnomusicologia, sì. Farsi la storia. Tanto il brano che stiamo ascoltando in sottofondo è un brano cantato da Caterina Bueno, Batton Lotto, registrato nel 65. Caterina Bueno, che insieme a Giovanna Daffini, Sandra Mantrovani, Giovanna Marini, che sarà qui con noi fra poco, Ivan Della Mea, eccetera, hanno rappresentato alcuni punti saldi della nuova canzone degli anni 60. Io mi riaggancerei e chiamerei in prima persona, in causa, il professor Satriani, a quella breve lettura che abbiamo fatto poc'anzi, e quindi a queste idee sul folklore che sembrano poco definite e chiare in questo periodo, e comunque mi sembra che sia evidente ciò che accennavo appunto all'inizio, cioè che si tenti di far assumere al termine folklore una valenza plurima entro cui far rientrare le nuove urgenze sociali emergenti in quegli anni. Non so se è d'accordo, professore. Sì, non è tanto che si tratti di un momento di confusione, si tratta, a mio avviso, in questo periodo, cioè negli anni 60, di una notevole insofferenza rispetto a certe definizioni del folklore particolarmente rigide, costrittive e riduttive, perché questa disciplina, a partire dai primi dell'Ottocento, prima come campo di interesse di ricerca, poi successivamente come disciplina scientifica, una sua definizione il folklore comunque l'ha dato. Il problema è che lo dava in termini tradizionali, come momento, cultura tradizionale e degli strati più arcaici della società. Quando si parlava di cultura del popolino, vulgus in populo e così via, i volghi, le tradizioni dei volghi nei moderni popoli e civili, una definizione comunque lo si dava. Cosa avviene in questi anni? Una insofferenza verso queste angustie definitorie e tendenzialmente definitive, e il tentativo di delimitare l'ambito semantico di folklore in maniera diversa, cioè caricandolo anche di tutte le istanze politiche presenti nelle classi subalterne. Quindi c'è una politicizzazione nel senso migliore del termine, nel senso di una consapevolezza della storicità delle tradizioni popolari. Quello che poco fa diceva Lady, noi dobbiamo introdurre questa istanza, altrimenti noi abbiamo come categoria critica o arcaicità o da sempre o la dimensione metastorica, il che non significa niente. Ogni cultura e ogni subcultura nell'accezione antropologica cambia nel tempo in maniera più o meno lenta. Si tratta allora di storicizzare questi prodotti culturali e contestualizzarli. Allora, cosa avviene in quel periodo? Avviene il tentativo, da un lato, di connettere ad un impegno politico e sociale la ricerca scientifica, cioè tentando di saldare l'istanza teoretica e l'istanza della prassi. teoria e prassi, anche se queste possono apparire formulazioni desuete oggi, c'è un noi dobbiamo avere la consapevolezza dell'immediato passato, di ciò che abbiamo alle spalle, a parte che teorie e prassi non penso sia totalmente desueto, possono apparire tali, ma indubbiamente c'è un privilegiamento o del momento teoretico o del momento operativo, si intende nell'uno è presente l'altro e viceversa. Quindi da un lato una politicizzazione, ma nell'accezione migliore, nell'altro il rifiuto di quella paccottiglia molte volte tardo romantica o di estrema genericità per cui si parlava della cultura popolare in termini di semplicità, in termini di commovente. Le processioni, le manifestazioni, il folklore religioso erano sempre semplici e commoventi perché esprimevano la fede genuina del popolo. Se noi avessimo tempo e volessimo fare un'analisi degli aggettivi usati nella presentazione di questo, che era il rinvio ad una visione destorificante, non solo, ma profondamente retorica. Dal momento che le classi subalterne cantano, sì, ma vivono, bestemmiano, operano, sudano, protestano contro le classi che le opprimono, cioè esprimono in tutta la varietà della vita una specificità culturale che va colta. A tentare di cogliere tutto questo e leggere il folklore come cultura delle classi subalterne è stato lo sforzo di quegli anni. Di quegli anni, certo. Io tu hai detto una cosa molto importante, hai fatto l'accenno all'aggettivo semplice e semplicità, e direi che è proprio, e credo che in queste trasmissioni chi le ha seguite se ne sia reso conto, e magari però forse vale la pena di segnalarlo, che è proprio di fronte ai prodotti musicali dove il concetto di semplicità non sta in piedi, perché credo che sia state fatte ascoltare nel corso di questi incontri delle musiche, delle produzioni musicali che proprio semplici non erano per niente, anzi facevano riferimento a dei sistemi diversi a quelli della complessità della musica armonico-tonale a cui non è la nona di Beethoven, ma la cui complessità del tutto diversa non è meno complessa come sistema di riferimento, per cui certo. Se questi prodotti non sono per nulla semplici, cioè il contadino non è che apre la bocca liberamente dà fiato al suo animo e esprime la dolcezza della vita pastorale, queste sono tutte storie, però le abbiamo sentite per anni. Ma è significativo che ancora oggi certe tendenze a presentare in maniera semplicistica la realtà del mondo popolare ancora oggi, dico, è saldamente presente, certo in alcuni filoni anche della cultura accademica specifica. Allora l'importanza di questi anni è quella di mostrare anche quante deformazioni ideologiche erano state appoggiate al concetto di popolare. Molte volte la cultura ufficiale ha determinato una certa idea del popolare, l'ha appoggiato al popolo e poi è andata a trovare ciò che aveva proiettato, ciò che aveva elaborato fantasmaticamente. Questa sottolineatura invece della ricerca sul campo, questo tentativo anche di elaborare nuovi quadri epistemologici e sottolineare gli aspetti contestativi del folklore, comunque sono delle conquiste, diciamo, del pensiero critico-demologico, per quanto certo. Ecco, senza enfasi, ma va riconosciuto lo sforzo e anche alcuni risultati che certo vanno ulteriormente trascesi, ma delineare una storia degli studi significa anche delineare la storia dei tentativi anche di elaborare nuovi modelli epistemologici per la comprensione della realtà. Certo, su un'osservazione che assumendo le mie responsabilità, naturalmente la forte tensione di quegli anni, la forte passione di quegli anni e la consapevolezza che si volevano rompere certi schemi necessitano, hanno bisogno nella distanza dei vent'anni adesso di una depurazione e di un ripensamento, non possono essere prese certamente alla lettera le cose dette nei modi e nelle forme spesso. Un bilancio critico. Certo, va fatto, perché va tenuto conto che non era un'elaborazione critica, un'elaborazione storico-critica a freddo, era a caldo, e quindi si portava dietro nel calore tutte le Certo, l'emotività del periodo. Capitella. Ecco, no, volevo aggiungere una cosa. Naturalmente io condivido molte cose che sono state dette a Rombardi Satriani e da Leiri, e che sono delle posizioni che potremmo dire, e fortunatamente l'antropologia radicale aveva preso fin dal 68 e anche fin da prima. Questo non vuol dire che un settore dell'antropologia radicale avesse visto queste cose, che poi le cose si siano diffuse. Ha ragione Rombardi Satriani quando dice che molte di queste scorie rimangono e permangono anche nella tradizione accademica. La seconda cosa, subito vorrei riprendere, che già aveva detto Roberto Leiri, è quella della storicità, sì, di storicizzare. Qui c'è il grande dilemma scrittura-oralità. Il problema di storicizzare l'oralità è molto ampio, è molto complesso. Noi non sapremo mai qual era il bisbiglio o il bisbiglio dei romani quando uscivano dal Colosseo. Non saprà mai, perché sappiamo come sonorizzava Dante quando si pensava ai suoi versi, non lo sapremo mai. Si tratta di vedere, come dicevamo una volta, se questo fa parte del superfluo o se invece è importante. Nella storicizzazione dell'oralità, ripeto, che non può essere legata all'invenzione dei cilindri di cena, indubbiamente è interessante aver fatto delle ricerche, come si dice, sul terreno, dirette, e poi rileggere i testi con questa esperienza, non perché il tempo non si sia cambiato e non perché da quando Cristo si è fermato a Eboli poi il mondo è cambiato, non si è fermato neanche dopo, quando si andava in Lucania 30 anni fa, ma perché indubbiamente la rilettura attraverso l'esperienza sul campo puoi vedere tra gli interstizi della scrittura la testimonianza storica. Se no non hai altra possibilità di poter storicizzare. Io penso che ci saranno delle ali di una certa tradizione del sapere orale che sono inesorabilmente persi, e come suonavano gli strumenti nel Cinquecento. Per quello, un'ultima cosa che riguarda il revival, io credo che sul revival ci troviamo in certi momenti, anche se io sono stato sempre un po' insomma, indicato come un mangia folk revival, e rimane il problema che probabilmente ci troviamo, così come a quei musicisti che alla fine del Cinquecento credono di rifare la tragedia greca e fare un'altra cosa, un melodramma. Probabilmente le vai, ma rientra in quel caso. Sì, la storicizzazione però in certo ambito, in una sguardo all'indietro non molto lontano, è possibile più di quanto si riteneva in passato. Per esempio la mia esperienza, ecco, sugli strumentisti sì, perché uno strumentista, mentre un cantore non saprà mai specificare da chi ha imparato, sì, in casa, dal padre, dalla madre, dagli altri, andava in chiesa con la mamma, non c'è un insegnamento, chi suona un violino, chi suona un pifero, chi suona una zampogna, ha avuto un maestro, perché uno strumento non si impara guardando, ascoltando un altro, c'è un maestro, e quindi conosce il suo maestro, e conosce anche il nome del suo maestro. In questo modo si arriva indietro di tre generazioni. Nella ricerca che io feci a Creta, che sto ancora facendo dal 72, abbiamo ricostruito, con l'aiuto dei suonatori di Creta occidentale fondamentale, una cronologia di oltre 400 nomi di suonatori di violino dal 1750, col nome del paese e anche in parte del repertorio. E questo si dimostra che la memoria orale del suonatore, che ha l'orgoglio anche di appartenere a una scuola, ma questo avviene anche, io sono pianista già della scuola napoletana, e lo stesso avviene con le Launedes in Sardegna, si risale indietro abbastanza nel tempo, con i piferi si arriva al Draghino, cioè al 1810-1820, e si fanno delle scoperte poi che sconvolgono il concetto di arcaicità corrente, quando ormai credo, e ci arriveremo presto, a stabilire che le Monferrine, che passano come repertorio di balli antichi, nell'Appennino bolognese arrivano attorno al 1850. Sì. Io rimarrei ancora sugli anni 60, su questa ancora definizione di folklore diversa. Attraverso un breve estratto da una lettura, un breve estratto da un saggio di Lombardi Satriani, Analisi marxista e folklore come cultura di contestazione, che mi sembra abbastanza significativo. Il folklore si definisce ordinariamente, e secondo la prospettiva moderna di diversi studiosi, quale cultura delle classi subalterne. Dal canto nostro, proponendo quale chiave interpretativa il concetto di contestazione folclorica, poniamo sì il folklore come cultura delle classi subalterne con funzione contestativa, esplicita o implicita, diretta o indiretta, nei confronti della cultura egemone. Ma contemporaneamente poniamo l'esigenza di considerare sia i documenti folclorici e sia la loro maggiore o minore funzione contestativa, i suoi orientamenti e i suoi scopi, in rapporto alle distinzioni strutturali indicate da Marx. Onde non si potrà più limitare il folklore ad una cosiddetta classe contadina che comprenda il piccolo proprietario come il bracciante, ma anzitutto si dovranno analiticamente e sperimentalmente studiare partitamente documenti e comportamenti del proletariato urbano e di quello extraurbano, dei corrispondenti sottoproletariati e dei settori improduttivi o produttivi di semplice reddito, e in secondo luogo si dovranno seguire le linee di intersezione che collegano la produzione e l'accettazione dei documenti e dei valori folclorici di queste diverse categorie, tenendo conto ovviamente della diversa misura in cui gli stessi soggetti produttori di folklore avvertono o no la lealtà delle suddette distinzioni strutturali. Posto ciò, non potrà più introdurre incertezza o confusione il notare che alcune manifestazioni folcloriche possono ritrovarsi in altre classi da quelle subalterne, come ad esempio alcuni proverbi che vengono ripetuti indifferentemente da esponenti di tutte le classi: moglie e buoi dei paesi tuoi, rosso di sera buon tempo si spera, a caval donato non si guarda in bocca, e così via. Osservazioni di tale genere, pur non intaccando il concetto più generale di folklore, quale cultura della classe subalterna che resta tale anche se alcuni elementi di essa cultura siano comuni all'altra classe, pongono però al folclorista problemi specifici. Ecco, quindi nuovi temi mi sembra che si affacciano. Sì, in questi nuovi quindi temi. Folklore come cultura di contestazione, in qualche modo, ma anche delle contraddizioni insite a questa sì, nuova formulazione tematica. Altrimenti continua ad aversi una visione totalmente romantica di questa classe subalterna, come se questo fosse un blocco monolitico che prima si presenta con le caratteristiche della genuinità, della semplicità, e oppure in questo caso con i caratteri dell'alternatività come globalmente antagonistica. Anche questa finisce per essere una visione neoromantica di sinistra in quegli anni, ma ugualmente globale e negatrice di che cosa? Della estrema complessità. La realtà non è semplice, non è semplificabile in poche formule. Una ipotesi interpretativa deve farsi carico anche di tutte le contraddizioni della realtà. In questo scritto io quello che cercavo di sottolineare era dare, certo, questa cifra complessiva. Guardiamo quanti caratteri contestativi ha questa cultura anche quando non è esplicitamente tale, quando il comportamento della classe subalterno viene posto in essere dai protagonisti senza consapevolezza di essere trasgressivo, ma è oggettivamente trasgressivo, come era trasgressivo il pianto che ieri noi abbiamo visto sugli schermi televisivi dei familiari dei tentati rapitori uccisi a Varese nel funerale di San Luca. Questo sottolineare questa carica trasgressiva di un comportamento non significa però presentare globalmente queste classi o questo mondo popolare come totalmente antagonista alla cultura dominante, certo. Perché fare questa è un'ipotesi negativa che pure alcuni studenti, alcuni esponenti della cultura giovanile di protesta alla fine degli anni 60 fecero, però inducendo ad errore, inducendo in una posizione un po' infondata, perché bisogna vedere momenti conformistici e momenti trasgressivi, bisogna individuare anche la produzione di neofolclore, bisogna individuare un folklore exurbano, ma anche quello che si forma da parte delle classi subalterne nelle grandi città, bisogna anche vedere i temi transclassisti, nei confronti della donna, ad esempio, un atteggiamento che non è solo delle classi subalterne, e non si svolge certo nel senso della libertà, anzi nel senso di un'ulteriore sopraffazione che viene fatta da vittime che ulteriormente vittimizzano. E tutto questo complesso problematico che io tentavo di dire alla fine degli anni 60 anche in questo scritto e in altri analoghi, e che in un certo senso invece vennero molte volte, anche per ragioni polemiche, estremamente banalizzate. Per anni io sono stato rimproverato per questa formula del folklore come cultura di contestazione da parte di alcuni colleghi, una parte appunto di cultura accademica che voleva presentare secondo immagini stereotipi quello che era un tentativo di ricerca, una direzione problematica. Sì, io però quando qualcuno adesso mi chiede di definire il popolo popolare, io cito la definizione più bella che ho mai trovata, che è quella di Derrida nell'enciclopedia: invito ad andare a leggere la voce popolo. Popolo, parola che non si può definire, in quanto acquista significati diversi secondo i luoghi, secondo le epoche e secondo i sistemi politici. L'ha imparata a memoria, giuro. Sì, è non è esatto, perché acquista non è la traduzione giusta del francese, però è, mi pare che è l'unica che oggi si possa, la parola della parola. Ma beh, effettivamente sì, questa di Diderot è ottima. Questo problema poi non ce l'aveva poi in fondo neanche Marx. Io mi ricordo sempre una cosa scritta da Lombardi Satriani in cui diceva appunto che Marx raccoglieva le poesie popolari scritte, ne faceva un libricino e lo regalava alla fidanzata e non aveva nessun problema demologico, antropologico, etnologico e politico. Io lo regalava perché andava di moda. Sì, perché anche Marx, come tutti gli altri, ognuno è figlio del proprio tempo e quindi può essere portatore di istanze critiche in alcuni settori e estremamente omogeneo alla cultura e alla temperie culturale dominante nella sua, nel suo momento. Non si è mai totalmente nuovi, come non si è mai totalmente vecchi, non si è mai totalmente conservatori e non si è mai totalmente rivoluzionari. Siamo un insieme di contraddizioni, non so se per fortuna, certo noi siamo un impasto di contraddizioni. Ma Marx, ma ognuno di noi è, ma Marx infatti non si poneva il problema se i canti popolari erano cantati, quello erano soltanto delle forme letterarie. Sicuramente, sì. Era figlio del suo tempo. Sì, però Engels raccoglie a Milano un canto, citando che è cantato, che è quello, un cantore d'osteria che è ancora stata ritrovata dopo e la cita, a Milano. Beh, ma sai, andiamo a spigolare... Bene, direi che possiamo fare una brevissima pausa musicale ascoltando Sacco e Vanzetti, insomma, una delle più famose ballate cantata da Giovanna Daffini. Giovanna Daffini viene scoperta, tra l'altro, durante la ricerca sul campo da Lady e Gianni Bosio nel 1961. Ascoltiamo il brano. La ballata di Sacco e Vanzetti viene da Foglio Volante. E esistono, ecco, per esempio questo è un caso in cui un testo moderno, una ballata moderna, la struttura non è più quella delle vecchie ballate, ma il senso è lo stesso, di cui si può ricomporre la storia anche nel contesto della sua presenza nella società. Esistono le carte di polizia, nelle carte di polizia il sequestro del Foglio Volante di Sacco e Vanzetti. Procediamo con l'ascolto. Il bravo confessore comanda tutte e due la santa religione. Sacco e Vanzetti, Giovanna Daffini, lo teniamo in sottofondo, una delle più famose ballate. Folk revival, ecco il vero folk revival, parliamo di questo veramente, del folk revival, che si presenta con una serie di contraddizioni e di ambiguità. Io partirei proprio per introdurre il folk revival da un estratto da Revival e ricerca, un saggio di Diego Carpitella del 77, è inserito in La musica in Italia, un libro della storica casa editrice Savelli, che raccoglie interventi di Gino Castaldo, Gianni Pintor, Alessandro Portelli, Michele Straniero e lo stesso Diego Carpitella. Ecco, pregherei Gianni Bersanetti di leggere questa breve lettura. Non mancano false ideologie anche nel movimento del folk music revival, Italia compresa. Sarà bene chiarire criticamente quali siano queste false ideologie, specie ora, 1977, che il revival si va ridimensionando, almeno per quel che riguarda gli equivoci di fondo. Tra le false ideologie del revival vi è senza dubbio un sostanziale pessimismo unito a un servizio paternalistico. Probabilmente molti dei protagonisti e dei cultori del revival non accetteranno questa definizione, ma se fosse stata compilata un'antologia delle dichiarazioni dei folk singer o dei folk complessi in questi ultimi anni, ci troveremmo dinanzi a un florilegio di amenità e di gustose pretese. Sarebbe opportuno che qualche tenace compilatore come il Vettori desse opera anche a questa impresa. In che cosa consiste questo pessimismo? Nel ritenere che i protagonisti della musica folclorica non ce la facciano a entrare nel giro. Quale giro? Quello soprattutto dei mass media, dischi, radio, televisione e delle organizzazioni teatrali borghesi. Probabilmente si parte dal presupposto che lo stato di subalternità socio-economica sia una specie di marchio deterministico che ti incolla a una situazione senza possibilità di spostarsi. Gli unici che in queste fasce di subalternità ce l'hanno fatta, ma non in questi anni rivivalistici, ma da molti anni, moltissimi, sono quei complessi caratteristici che, come i Race Records di statunitense memoria, circolano con le loro incisioni discografiche, alcune clandestine e illegali, nelle bancarelle delle feste, delle fiere, dei santuari. Sono quegli artigiani, urbani e paesani, che con la loro chitarra e qualche altro strumento caratteristico si sono emancipati incidendo per case discografiche locali. Un'emancipazione limitata, circoscritta e soprattutto egemonizzata dalla musica colta di città. Infatti i Paisà Records, dialettali, che trovi alla Madonna del Pollino o dei Polsi, a San Gerardo o alla Madonna dell'Arco, sono confezionati secondo il criterio delle 8-16 battute e della cadenza alla tonica. Ciò non toglie che qualche residuo di rustico è possibile trovarlo, o nel tipo di emissione di voce o nella melopea, o in qualche richiamo o grido, gli hollers nostrani. È chiaro che il folk music revival italiano, quello cominciato con Bella Ciao per intenderci nel 1964, non poteva condividere le scelte di stile di questi complessi caratteristici, che comunque hanno molto mercato, ma desiderava utilizzare un patrimonio contadino, genuino, originale e diverso. Ora, quando il folk music revival italiano, con alle spalle l'analogo movimento anglosassone, prese il suo avvio di maggior respiro, relativamente agli originali aveva almeno due possibilità. Rivolgersi agli archivi del Centro Nazionale Studi di Musica Popolare, che allora aveva circa 5.000 brani registrati nelle sue bobine, oppure rivolgersi all'incipiente e ancora scarso, sempre nel 64-65, archivio etnico-linguistico-musicale della Discoteca di Stato. Se questi due archivi, soprattutto il primo, fossero stati accessibili, come di dovere nel quadro di un uso sociale e democratico delle tradizioni popolari, probabilmente vi sarebbe stata una minore ansia di ricerca e una più attendibilità delle fonti. Lo ricorda questa Naturalmente lo ricordo e senza nessuna presunzione non cambierei di gran lungo la sostanza. L'argomento si riferisce a, anzitutto, che validità hanno queste registrazioni paesane nel periodo del revival, fatto quelli dagli stessi protagonisti, sia pure artigianali e manipolati da maestri locali, non lo so. A sua volta è anche vero che uno degli aspetti rivelatori del revival, quello che mi ha sempre interessato, era l'aspetto corporeo. E moltissimi folk singer si presentavano con una assimilazione di alcuni aspetti della tradizione, e io usai una frase per cui fui naturalmente molto criticato, che facevano il verso ai cantori popolari ma rivelavano la loro estrazione sociale e direi anche la loro mentalità dal modo come si muovevano cantando, che non corrispondeva esattamente alla tradizione, tant'è vero che molti dei folk singer furono rifiutati in loco dalla gente dove tornavano perché non si riconoscevano. Questo è accaduto anche per Revival Sardo. Ma comunque io da una parte allora avevo ritenevo che fosse una necessità il folk revival come momento ideologico, di presenza ideologica e sociale, e in questo senso la presenza della voce, per dirla con Zumthor, era molto importante. Quello che interessa a distanza di questo problema è di vedere in che rapporto sta questo con uno studio che non può essere neutro, ma con uno studio sostanziale di questa tradizione. Io penso che Giovanna Marini a questo punto forse dovrebbe essere chiamata direttamente in causa. Giovanna Marini. Giovanna Marini è poi una sua impronta così personale. Io apprezzo di lei fin dagli inizi, ma di quei lavori che ha fatto sulla voce, dato che facevamo della voce di Zumthor, li apprezzo moltissimo. Ma sai che questi pezzi che io sentivo, infatti non credo di rappresentare bene il folk revival qua, il fatto che a me tutta questa quantità di musica che ho sentito mi ha dato un'emozione sempre enorme e mi sembrava sprecata. Dicevo, oddio, che spreco. Insomma, uno ha un colpo allo stomaco fortissimo quando sente il diesire di Verdi. Io tuttora c'ho, con queste bellissime successioni di settime, no? Ecco, io c'ho lo stesso colpo al cuore fortissimo quando sento il sentire buona gente delle Mondine, per esempio. E vorrei usarlo. Come il diesire di Verdi non è rimasto lì, tutti hanno usato, tutti hanno imparato a concatenare le settime in un certo modo per fare quello stesso effetto. Allo stesso modo mi piaceva, quindi la mia attenzione verso queste cose è stata di tipo assolutamente strumentale, se vuoi pure un po' sciagallesco, perché insomma è tutta roba da non buttare, tutta roba straordinaria, e quindi ho incominciato a pensare come poterle usare queste cose, quindi non so se questo si possa chiamare folk revival, io non lo so. E quindi quando tu senti tutta questa musica, per prima cosa ti accorgi che la devi scrivere, per esempio, perché noi veniamo da una cultura scritta. Io oralmente, se sento cantarmi "Eccoci bella mia, domani parte", non te lo so ricantare, me lo devo scrivere, perché sennò questi toni, semitoni, quarti toni non me li ricorderò mai, anzi cancellerò tutte le cose un pochino diverse. Se c'è una quarta aumentata sicuramente la levo e la faccio diventare quarta giusta. Quindi mi piaceva riscrivere tutto per impadronirmene bene, per capire come erano fatte e poi per riusarle, ma per riusarle per cantare cose che veramente erano poco riconosciute. Io penso che Giovanna Marini a questo punto forse dovrebbe essere chiamata direttamente in causa. Giovanna Marini. Giovanna Marini è poi una sua impronta così personale. Io apprezzo di lei fin dagli inizi, ma di quei lavori che ha fatto sulla voce, dato che facevamo della voce di Zumthor, li apprezzo moltissimo. Ma sai che questi pezzi che io sentivo, infatti non credo di rappresentare bene il folk revival qua, il fatto che a me tutta questa quantità di musica che ho sentito mi ha dato un'emozione sempre enorme e mi sembrava sprecata. Dicevo, oddio, che spreco. Insomma, uno ha un colpo allo stomaco fortissimo quando sente il diesire di Verdi. Io tuttora c'ho, con queste bellissime successioni di settime, no? Ecco, io c'ho lo stesso colpo al cuore fortissimo quando sento il sentire buona gente delle Mondine, per esempio. E vorrei usarlo. Come il diesire di Verdi non è rimasto lì, tutti hanno usato, tutti hanno imparato a concatenare le settime in un certo modo per fare quello stesso effetto. Allo stesso modo mi piaceva, quindi la mia attenzione verso queste cose è stata di tipo assolutamente strumentale, se vuoi pure un po' sciagallesco, perché insomma è tutta roba da non buttare, tutta roba straordinaria, e quindi ho incominciato a pensare come poterle usare queste cose, quindi non so se questo si possa chiamare folk revival, io non lo so. E quindi quando tu senti tutta questa musica, per prima cosa ti accorgi che la devi scrivere, per esempio, perché noi veniamo dalla cultura scritta. Io oralmente, se sento cantarmi "Eccoci bella mia, domani parte", non te lo so ricantare, me lo devo scrivere, perché sennò tu questi toni, semitoni, quarti toni non me li ricorderò mai, anzi cancellerò tutte le cose un pochino diverse. Se c'è una quarta aumentata sicuramente la levo e la faccio diventare quarta giusta. Quindi mi piaceva riscrivere tutto per impadronirmene bene, per capire come erano fatte e poi per riusarle, ma per riusarle per cantare cose che veramente erano poco riconoscibili, anche se però erano piene di questa infatti musica. Infatti tu hai dato molti suggerimenti sulla trascrizione della musica di tradizione orale. Cioè, certo, perché discorso sulla trascrizione. No, perché preciso. Sembrerebbe che uno dicesse: è più facile che una la prenda oralmente e la ripeti. Invece tu dici: no, avevo bisogno della mediazione. Assolutamente, se non avevi scritto. E quindi è solo così te ne puoi rimpadronire. E poi c'è un altro fatto: ci sono talmente tante regole nel canto contadino, poi ti accorgi. Per esempio, che ne so, il melisma si fa sull'ultima sillaba e non sulla penultima, nel canto classico sulla penultima. Il maggiore e minore non cambia niente in un canto contadino, il maggiore e minore in canto classico è fondamentale, ma infinite cose, poi arrivando pure alla voce. Impadronirsi di tutto questo è come imparare un altro strumento da suonare, come imparare un altro strumento in orchestra, capisci? Può chiamarsi questo folk revival, non lo so, certamente si chiama utilizzo di uno strumento, questo sì. Credo che revival è anche questo che dici tu. Ma queste considerazioni sono considerazioni appunto attuali della giovane musica. Assolutamente, sì. Di oggi. Ecco, invece negli anni 60, alla metà degli anni 60, cioè parliamo appunto di spettacoli quali Bella Ciao, che è passato alla storia per quello che è successo, adesso lo ricorderemo, oltre che per il valore musicale, prettamente sì. Musicale, anche per quello che ha significato proprio lo spettacolo Bella Ciao da un punto di vista sociale e politico. Nel 62 ricordiamo anche, tra l'altro, che Carpidella e Lady mettono in scena un altro spettacolo, Sentite brava gente, di cui sì, purtroppo non abbiamo documenti. Tutto... Sentite buona gente. Sentite buona gente, ma era tutto di cantori veri. Sì, tutti cantori autentici, sì. Ecco, quindi nel 60... Allora era diverso, ecco. Fino al Ci ragione canto, che ha determinato però una svolta, lì è stato un cambiamento, ma fino al Ci ragione canto era la raccolta, lei di Bosio, e io venivo a cantare le cose che voi mi facevate sentire, lì mi proponevo il problema di ricantarle il più uguale possibile, quella era la cosa interessante, era la prima volta che avevo sentito questo, che avevo sentito la voce di Giovanna Daffini, la voce di Sandra Mantovani, avevo scoperto che erano voci compresse, che non liberavano in testa, insomma, quindi che allora andare a vedere un po', perché la voce compressa dà più emozione, perché se libera in testa è una voce facile, è una voce che scorda, una voce leggera, se invece non libera in testa ma rimane compressa ti dà un'emozione fortissima e ti sembra acutissima senza esserlo poi. E le terze parallele fatte con due voci compresse ti fanno rizzare come si dice, i peli sulla pelle, invece fatte con voci non compresse non ti danno assolutamente nessuna emozione. Ma pensa, Giovanna, alla Lega di Bella Ciao, quella Daffini che entra e cantava lassù in alto. No, voglio dire, quella era un'emozione grande, perché poi la Daffini aveva un tutto. Poi sarà giusto, non sarà giusto fare il verso, non fare il verso, questo è un altro discorso, però è una, forse è la cosa che rimane di più come fatto di ma emozione. Ma poi devo dire che la Daffini aveva un trucco vocale di grande tecnica, che era di far finta di cantare di voce piena, ma era in testa, perché sennò lassù non ci poteva arrivare. Sì, ma il problema della Daffini, tu sai che lei aveva un suo sogno. Imitare la Tonina, no, Tonina Torielli, che era, sì, è vero. I giovani non sanno chi era, la caramellaia di Novi Ligure, che andò a Sanremo ed era una emula di Nilla Pizzi. Il suo sogno, col vibratone. Sì, lei, il sogno era cantare la canzone all'italiana alla Nilla Pizzi, addirittura alla Tonina Torielli. Ma la sua formazione culturale, la sua condizione sociale, economica, la sua vita, il suo passato, per fortuna le impedivano di cantare come Tonina Torielli. Creare quello stile professionale, perché non si può dire, non puoi pigliare i pezzi della fine come canti di risaia, perché lei era una professionista, che posteggiatrice in sostanza, era un canto da posteggiatore, lei viveva infatti con la chitarra, lei aveva compiuto un'operazione per suo conto, di grande, di trasformare in canzoni quelli che erano i canti. usiamo questo termine per capirci. Quindi lei cantava alla maniera delle canzoni Rai, canzoni Festival di Sanremo, Tonina Torielli voleva cantare quelle cose. Infatti, per fortuna non ci riusciva. Un attimo solo, sentiamo adesso in primo piano, era sempre in sottofondo il sacrificato, una Gli Scariolanti da Bella Ciao, poi riprenderemo la conversazione. Vorrei avvertire che è uno dei pezzi più brutti di Bella Ciao. Lo ascoltiamo ugualmente. Volta, rivolta, per tornare in voltar, noi siamo gli scariolanti, la riderà, che vanno a lavorare. Tutti mi dicono mare, ma mare. Caterina Bueno che sta cantando, vero Giovanna? Sì, sì, è Caterina con una voce straordinaria, perché ha questa facoltà di avere il gorgheggio, insomma il melisma, direttamente in gola, io non so come faccia, ed è straordinario. Adesso questo si è perso, ecco una di quelle cose che io non la sento più fare, poche donne lo fanno. Vogliamo parlare di questo momento così importante, così essenziale, cosa rappresentò in effetti Bella Ciao? Nel 64, ma fu data per la prima volta a Spoleto. Capitella prima ha ricordato, io non sono ovviamente semplicemente per autodifesa così allineato sul giudizio sul revival che è stato letto prima di Diego, anche se in buona parte lo condivido. C'era una certa polemica. Non è polemica, era un giudizio che io posso anche dire di condividere al 100%, ma era parziale. Era parziale, cioè in realtà, e non poteva che essere parziale, perché era visto il fenomeno dall'esterno, ed è quindi giusto che si veda dall'esterno, e dall'esterno appariva in grandissima parte come Diego Capitella lo rappresentava. Visto dall'interno, però, nessuno può pretendere che le cose vengano giudicate come sono dentro, le cose vengono giudicate come appaiono fuori, i significati, e poi però Carpitella c'era dopo, i significati di tipo ideologico, anche in senso non negativo visto dall'oggi, erano certamente prevalenti. Il problema non era tanto quello di fare diverso, ma quello di promuovere erano delle provocazioni. Bella Ciao funzionò come provocazione, ma funzionò contro le intenzioni e sul punto sbagliato. Presentata al Festival dei Due Mondi di Spoleto nel giugno 64, suscitò una gazzarra, un gran clamore, finimmo tutti sulle prime pagine dei giornali, finimmo tutti come un avvenimento che oggi penso che i giovani di oggi ritengono inconcepibile, che per due parole di una canzone, e del resto poi neanche così gravi, si potesse succedere interpellanze parlamentari, il Consiglio Comunale di Gorizia, che cosa, l'Unione Ufficiale in Congedo che riempie di manifesti l'Italia, i fondi dei giornali, tutti i grandi giornalisti impegnati, schierati con noi certamente in questo. Ecco, però non dimentichiamo che era giugno 64, abbiamo saputo dopo cos'era il giugno 64, c'era la crisi del governo di centrosinistra e sono i giorni di De Lorenzo, i giorni del golpe vero, presunto, eccetera, quindi era un momento politico delicatissimo nel paese che noi ignoravamo, abbiamo saputo poi anni dopo cos'era quel momento. Quello che a noi è spiaciuto a tutti che sia successa che la provocazione sia caduta sulle parole di una canzone, perché l'intenzione era la più lontana dal nostra intenzione era la più lontana dal fare la provocazione banale sulla parola, sullo slogan, su una frase. Era, si voleva, se si doveva provocare, non dico scandalo, ma comunque provocare discussione, lo provocasse la globalità della cosa, perché lo spettacolo aveva questa, la parte politica era presente e anche consistente, ma non era certamente l'unica dello spettacolo, tutto era messo alla pari. Era il tutto che provocava, era il fatto che in scena ci fossero i Piazza nella Daffini, sì, anziché solamente degli intellettuali, sì, o degli attori. Sì, però comunque voglio dire, l'intenzione era di mettere sullo stesso livello, come intenzione di dichiarazione ideologica, la Nina Nanna e la canzone d'amore con il canto politico. Questo però era... ti ricordi le critiche, dicevano questa voce da cortile, sì, che era già, sì, anche quello, veramente... comunque è successo, su Gorizia il leggiamo allora alcune il ciclo stilato che fu diffuso in occasione della rappresentazione al Teatro Odeon a Milano dopo 1960. Quando fu la ripresa, sì, sì, nella ripresa il ciclo stilato era abbastanza significativo, mi sembra, non me lo ricordo. Un simile lavoro non ha lo scopo di procedere a un recupero in seno alla cultura cosiddetta superiore di alcuni o molti dei modi propri di comunicazione e di comportamento del mondo popolare, ma di collocarsi quale momento complementare a quell'impegno di ricerca scientifica che cerca di dimostrare i valori autonomi della cultura della classe e il carattere non subordinato ma antagonistico della civiltà popolare e proletaria. Dalla collaborazione organica fra ricerca scientifica e nuova comunicazione del materiale potrà forse uscire un contributo determinante alla formulazione di un disegno organico e contemporaneo del mondo popolare su cui fondare una nuova cultura. Un'indicazione del genere non vuol dire ovviamente che la società socialista dovrà rinunciare a fare suoi tutti i contributi attivi della cultura borghese che sono dati acquisiti dalla civiltà, ma più semplicemente che dovrà integrare, come già fece la classe borghese nei riguardi della cultura aristocratica, questa eredità in una propria e autonoma concezione del mondo, le cui radici sono nel comportamento e nell'espressività del mondo popolare. Dovrà cioè riempire dei suoi propri contenuti e collocare nella prospettiva della sua storia ciò che la cultura borghese le trasmetterà, come dovrà dare un significato nuovo alla tecnica e alla scienza che pure le provengono dalla grande esperienza borghese dell'età moderna. Sì, mi pare, a parte il linguaggio un po' datato, sì, ma siamo nel 65, questo mi sembra. Cosa. Beh, sono dette in altre parole quello che Giovanna diceva, sì, prima. Sì. Cioè il problema non era quello, era quello di porre a fianco delle esperienze musicali e delle conoscenze musicali, dell'utilizzazione musicale, al fianco, alla pari con l'eredità della cultura superiore, egemone, troviamo qualche parola che vogliamo, anche questa musica. Cioè quel discorso è esattamente, con parole più concrete e con la prospettiva dell'oggi, quello che diceva Giovanna prima. Cioè io quelle cose le volevo, perché si deve, mi emoziona la messa del Requiem di Verdi e mi emoziona questa cosa, perché quella invece deve essere conservata, deve produrre, deve essere integrata nella cultura e produrre altra cultura, e quell'altra cosa invece non, quest'altra cosa non, si deve buttare via. Ecco, il problema, detto in termini diversi, lì c'è la carica linguistica del 1965, siamo 3 anni del 68. Però nella sostanza, sì, è questo il tipo. Ascoltiamo allora questa famosa Gorizia che provocò quel finimondo a Spoleto. La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane, e dolente ognun si partì. Sotto l'acqua che cadeva al rovescio, grandinavano le palle nemiche, su quei monti, colline, gran valli, moriva dicendo così: o Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza, giorno per molti non fu. O vigliacchi che voi ve ne state con le mogli sui letti di lana, schernitori di noi carne umana, questa guerra ci insegna a punir. Voi chiamate il campo d'onore questa terra di là dei confini, qui si muore gridando assassini, maledetti sarete un dì. Cara moglie che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per tutti. Era Gorizia da Bella Ciao del 60, del 64. Adesso siamo in chiusura ormai di trasmissione di questo terzo incontro con Diego Carpitella, di questo lunghissimo incontro che è iniziato alle 14:10, sono le 17:35. L'ultima parola al professor Carpitella per una valutazione a distanza di 15-20 anni dai fatti che abbiamo raccontato, rievocato, dal periodo storico che abbiamo tentato di rianalizzare per quanto sommariamente, anche se il tempo è stato tanto, in realtà ne servirebbe molto di più per rianalizzare un periodo storico così complesso. A distanza di tanto tempo, una valutazione su questo fenomeno e su quel periodo. Beh, certo, dopo che è stato prima letto quel brano mio, non vorrei assolutamente equilibrare, però voglio dire che per esempio l'esecuzione che abbiamo sentito adesso di questa canzone è una presenza della voce di quello che si dice una canzone, un'interpretazione eccezionale, emotiva, partecipante, al di là anche delle circostanze storiche in cui fu realizzata. In questo senso io cito ancora le considerazioni di Zumthor, che è un filologo, naturalmente un filologo romanzo molto attento alle voci, e la presenza della voce è un fatto estremamente importante dal punto di vista affettivo, sentimentale, psicologico, estetico, in quel caso associativo, ideologico. E infatti non è un caso che Zumthor, nella sua presenza della voce, cita spesse volte lo spettacolo di Bella Ciao. E quindi vuol dire che una funzionalità, noi siamo stati abituati con la divisione del lavoro a vedere l'estetica soltanto nelle sale da concerto o nelle sale deputate, mentre in quel periodo, ecco, la musica era un qualcosa che era funzionale, un qualcosa che non era primariamente estetico. In questo senso il revival è stato un correttivo di come sentire la musica, cioè non c'era questa assoluta prevalenza del momento estetico, c'erano altre funzioni estremamente importanti. Quindi io vedo il folk revival un momento in cui, perché questo poi così lo dico a Roberto, mi sembra che la prevalenza del revival sia stata vocale più che strumentale. Sì, del primo revival, primo sì. Revival. Poi purtroppo invece il secondo revival, quello degli anni 70, è stato strumentale. Perché non dici purtroppo? Dico purtroppo perché è stato abbandonato totalmente la ricerca sulla voce da parte del revival, soprattutto al nord, voglio dire, al nord totalmente, e sono stati assunti, mentre magari voi si assumeva in modo così più entusiastico che critico tutto quello che questo materiale, lì invece venivano assunti modelli pseudo-celto. Ah, sì. irlandesi, francesi, e si cercava di scoprire i Celti anche fra gli addirittura fra gli occitani, che proprio Celti quelli non erano del tutto, casomai quelli, la Francia del Nord forse, e si rifaceva veramente il verso, non più al mondo operaio, si rifaceva il verso ai bassi livelli di un revival di altri paesi addirittura, e questo è stato, e questo difatti ne ha decretato anche la fine, oggi si può dire che non esiste. Avevamo altre letture, altri documenti, altri ascolti, avevamo un nastro anche con un intervento di Franco Coggio dell'Istituto De Martino, che per motivi di tempo non possiamo mandare in onda, lo manderemo poi in onda ovviamente la prossima settimana per parlare appunto di questa importante istituzione. Non mi resta nient'altro da fare, essendo in chiusura, che ringraziare Giovanna Marini, Roberto Leidi, il professor Lombardi Satriani, Clara Gallini, Romano Mastro Mattei e ovviamente Diego Carpitella, a cui diamo appuntamento la settimana prossima per l'ultimo di questi quattro incontri che Antologia gli dedica. Poche note della nostra sigla, prima di lasciare la parola a Carlo D'Amicis per la chiusura, cioè per l'inizio in realtà, della seconda parte di questa prima lunga parte di Antologia. A più tardi. Defluisce la cultura etnologica dal nostro studio, si apre, come ha già annunciato Emanuele Pappalardo, la seconda fascia della prima parte di Antologia. Ormai da qualche settimana siamo abituati a dedicare questa zona al teatro, in particolare ai grandi interpreti del teatro italiano contemporaneo. Quest'oggi ci soffermeremo su due interpretazioni di Sara Ferrati. Procederemo in questo modo, ascolteremo in prima battuta una rappresentazione radiofonica. In realtà si tratta di un ciclo che stiamo utilizzando proprio in questo spazio, in questa rubrica, un ciclo che risale a circa 18-20 anni fa, un ciclo naturalmente della RAI, una commedia in 30 minuti, si tratta naturalmente di riduzioni radiofoniche di lavori e di opere piuttosto celebri. Nel caso di quest'oggi ci soffermiamo su Spettri di Henrik Ibsen, nella riduzione radiofonica di Renato Mainardi, nella traduzione di Anita Rowe e, per quanto riguarda la regia, Filippo Crivelli. Si tratta naturalmente di una interpretazione incentrata su Sara Ferrati. L'ascolteremo, sarà preceduta da una breve introduzione in cui ascolteremo proprio la voce di Sara Ferrati, e poi ci ritroveremo dopo i titoli di coda per qualche cenno biografico su questa attrice drammatica e con un secondo ascolto a lei dedicato. Parlare di Spettri di Henrik Ibsen ed esprimere anche una sola idea nuova è secondo me addirittura impossibile. Esistono già infiniti saggi, commenti, critiche. Il testo ibseniano è stato analizzato, studiato, sezionato, spiegato e ormai non ha più segreti. Può essere curioso invece dare un'idea di come questo dramma è stato accolto dalla critica londinese nell'aprile 1891. Gli articoli dai quali io scelgo qualche brano sono apparsi su quotidiani fra i più importanti dei quotidiani di Londra. Ed eccone alcuni frammenti. Dramma abominevole. disgustoso spettacolo che avvelena il teatro moderno, una cloaca scoperchiata, una piaga schifosa, un atto sconcio commesso in pubblico, ammasso di volgarità, blasfemo, personaggi incoerenti, privi di interessi o nauseanti, lavoro repulsivo e degradante, sinistre sudicerie diluite e null'altro, eccetera, eccetera. Questo in Inghilterra. Altrove il dramma non fu accolto con più favore o rispetto. In certi paesi fu addirittura vietata la rappresentazione. Quasi dovunque il testo fu frainteso e avversato dalla critica. Ma a questo proposito Bernard Shaw scriveva: «Ormai Ibsen è un classico, come Shakespeare o Goethe, quindi non si può giudicarlo e non occorre capirlo». Ritengo che Shaw, avendo capito, era anche convinto che in Spettri Ibsen toccò qualcosa di molto più profondo di ciò che i critici avevano insultato. Mi riferisco al dramma di Elena Alving, la madre, la vera protagonista, tormentata dai rimorsi di un passato irto di errori, conseguenze di incancellabili paure borghesi. La donna che nella sua violenta volontà di emancipazione era fallita in ogni suo proposito causa i fantasmi che portava dentro di sé. I fantasmi che noi tutti ci portiamo dentro oggi e sempre. Emanciparsi significa uscire dai binari dell'infanzia, ma è e sarà sempre, a mio parere, un gioco necessario, vitale, ma pericoloso. Segregata nella sua casa solitaria, perennemente battuta dalla pioggia, la signora Alving finalmente osa sperare in un'impossibile schiarita. Ma è naturale che lei oggi sia di ottimo umore, signora Alving. Prima di tutto, domani è giorno di festa. E poi ha qui il suo Osvaldo. Ah, sì, che gioia per me riaverlo. Questa volta più di 2 anni, sa, senza tornare a casa. Ma ora ha promesso di restare con me tutto l'inverno. È una prova di grande affetto. Ma deve essere molto più allettante vivere a Roma o a Parigi, immagino. Certo, ma il mio caro meraviglioso figliuolo vuole molto bene a sua madre. Sono molto curiosa di vedere se lo riconoscerà. Fra poco scenderà, si è buttato un momento sul sofà della sua stanza. Il viaggio l'ha stancato molto. Oh, mi scusi, è dell'asilo, vero che noi dobbiamo parlare? Mi ha portato i documenti, pastore Manders? Sì, eccoli. È tutto a posto. Ecco, guardi. Statuti dell'asilo fondazione del capitano Alving. Ho scelto il titolo di capitano. E non di ciambellano, è meno pomposo. Sì, sì, sì, come lei vuole, grazie. Come preferisce. Grazie. Ah, un'altra cosa importante. Dobbiamo o no assicurare contro l'incendio gli edifici scolastici? Ma certamente. Domani c'è l'inaugurazione dell'asilo, mi pare che avreste dovuto farlo già prima. Io qui ho assicurato tutto, edifici e mobili, e raccolto i bestiame. Per i beni privati anch'io faccio lo stesso, naturalmente. Ma un asilo deve essere consacrato a una missione più alta. Non vorrei, ma si potrebbe dire che né lei né io abbiamo una vera fiducia nella provvidenza. Io, ecco, non vorrei espormi. Sì, sì, sì, sì. Capisco. E va bene, faremo a meno dell'assicurazione. Buongiorno, pastore Manders. Ah, è incredibile. Ma è proprio Osvaldo. Sì, è proprio il figlio il prodigo, signor pastore. O il figlio ritornato, se preferisce. Quando Osvaldo è apparso sulla porta con la pipa in bocca, mi è parso di rivedere suo padre, in carne ed ossa. Ma no, come può dir questo? Non lo vedi, Osvaldo somiglia soltanto a me. Osvaldo, metti via quella pipa, per favore, non vorrei fumo in questa stanza. Sì, scusami, mamma, volevo soltanto riprovarla. Ho già fumato questa pipa una volta, quando ero bambino. Una sera entrai nella camera del babbo. Lui era molto allegro, allegrissimo. Mi prese sulle ginocchia e mi porse questa pipa. «Fuma, fuma, ragazzo!» diceva. «Forza, ragazzo, forza!» E io fumai, fumai, fumai, finché vomitai. E lui si mise a ridere, rideva, rideva. Ma stai ricordando un sogno, Osvaldo, non c'è dubbio. No, mamma, non è un sogno. In quel momento entrasti tu e mi portasti nella tua camera. Io continuavo a star male. E tu piangevi, non ricordi? Ma no, no, no, caro, non posso ricordare perché tuo padre... In gioventù il ciambellano Alving di questi scherzi ne faceva spesso. Era un uomo estremamente gaio. Lei ha ereditato il nome di un uomo attivo e degno di rispetto, mio caro Osvaldo. È stato bello da parte sua ritornare per l'inaugurazione dell'asilo, per il giorno consacrato al suo ricordo. Non potevo fare di meno per mio padre. E io ti avrò con me per tanto tempo. Questo è ancora più bello. Signor pastore, gliel'ho detto, e resterà qui per tutto l'inverno. È vero, Osvaldo? Resterò per un tempo indeterminato, mamma.